L'attualità, anche d'estate, di Alessio Maurizi. Buonasera, buonasera cari ascoltatori, eccoci qua, 18 e 7 minuti, ben ritrovati, partiamo per un'altra serata insieme fino alle 20.30 all'800 24 0024 per prenotare subito i vostri interventi in diretta. Se invece volete interagire con noi in tempo reale ci trovate su Twitter, l'account del programma è chiocciola si può fare 24, mio chiocciola Ale Maurizi. State bene ad ascoltare questa canzone perché sì, ve lo dico tra poco perché, vai! Turista, turista, turista, turista, turista, P-U-R-I-S-T-A, som turista, presne tak to mám, som jak Vandaliro, ďalšie mesto dám. Ja som turista, turista, turista, turista, turista, P-U-R-I-S-T-A, som turista, presne tak to mám, som P-I-O, a teď jedu k vám. Il nostro indotto principale non sono più l'industria pesante, è il turismo. I turisti che devono pagare, ma non 3 euro come succede, ma come succede all'estero, 70 euro per vedere i monumenti. Questo è il nostro petrolio. Oltre, perché non si fa? È come se non esistesse il turismo. L'Italia è solo per questo. Io sono andata in Scozia, ho visto una rovina, non c'era un castellaccio rotto. Allora, e abbiamo pagato. Certo, abbiamo pagato. Io sembrava che chissà che dovessi vedere, ho detto ma questo che è? Mezzo castello ammosciato su una costa. Il castellaccio in Scozia dove la Mussolini ha pagato chissà quanti euro per andare, e in Italia invece il nostro turismo, il nostro petrolio. Ma io devo ancora sentire gente che ha avuto, che è eurodeputata, che ha avuto responsabilità in Parlamento, al governo, dire ancora questa cosa qua. È vero, certo è vero, ma perché non si fa? Sono anni che sentiamo dire il turismo è il nostro petrolio e poi non si fa niente. In questa estate in cui abbiamo parlato di tutto, dai Vucumpra agli immigrati alla riforma del Senato ad altre cose, adesso si parla della riforma della scuola eccetera, nessuno che abbia parlato seriamente dell'unica cosa che ci sarebbe da fare, cioè il famoso turismo. Oggi tra l'altro Federalberghi rilancia la polemica con TripAdvisor, il paradiso di tutti gli utenti, i viaggiatori che scoprono lì come, dove andare con recensioni dettagliatissime, e che ha cambiato il modo anche di fare il turismo. Federalberghi, polemica di retroguardia perché ci sono le recensioni finte, dobbiamo bloccare TripAdvisor. Le recensioni finte, che tra l'altro si scopre con un'inchiesta del Fatto Quotidiano, sono gli stessi albergatori e ristoratori a comprare, cioè vengono, riportano una scatola di vini e dicono coi vini ti vendo anche un po' di recensioni, no? Si fa così coi ristoranti e non dovrebbero comprarle, non dovrebbero accettare. Poi si lamentano che TripAdvisor è truccato. Questa è la situazione italiana nel cuore dell'estate per quanto riguarda il turismo. Zaia. Innanzitutto il prefetto rappresenta il governo. Se l'idea del governo è quella di dire, visto che avete avuto la crisi, vi diamo un po' di immigrati a 40 euro al giorno, direi che così non si risolvono le crisi di settore. Nella regione che è la più grande industria del turismo d'Italia, con 70 milioni di presenze e 17 miliardi di fatturato, e vorrei proprio vedere quali sono questi albergatori che hanno avuto pochi magari avventori sulle Dolomiti o in spiaggia ed oggi chiedono di avere gli immigrati. Andateli a trovare, vediamo se li trovate. Noi a Roma, molto bello vedere le impalcature, ma con tutte le bellezze che abbiamo purtroppo con questo sindaco che è una tragedia, noi non dovremmo pagarle le imposte locali, invece le paghiamo. Perché facciamo non pagare i turisti stranieri, che il cinese ma non lo vuoi far pagare, che viene a fare in Italia? Ma facciamolo pagare pure il tedesco, il francese, i cittadini italiani no! Cioè questo è il livello della proposta, avete capito? Facciamolo pagare il tedesco, il cinese, cioè proposte proprio strutturate, no? Soluzioni intelligenti, magari importate da altri paesi, strategie per gestire i flussi turisti, fateli pagare i cinesi, i tedeschi, questo è il livello. Ci tocca dare ragione ancora una volta a Vittorio Sgarbi. turista, turista, turista, turista, turista. Cosa capita in Italia paradossalmente? Che grazie alla parte peggiore di Pannella noi abbiamo cancellato il Ministero del Turismo in Italia. Quello dell'agricoltura, che è rinato come risorse agricole e politiche, quello delle, la mancanza sì, che era insieme, ma il Ministero del Turismo vuol dire che uno si applica a capire quali realtà possono svilupparsi e a promuoverle. Invece hai le regioni che si muovono in maniera assolutamente schizofrenica, si muove Vendola e sembra che sia il Presidente d'Italia, si muove Maroni, ognuno va come funziona, come vuole, e non c'è un'idea dello Stato e dello Stato della bellezza. L'onorevole Giarrusso, il Movimento 5 Stelle rilancia le posizioni del Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo sul tema della guerra all'ISIS, dopo le famose dichiarazioni di Alessandro Di Battista, che aveva detto, aveva invocato il dialogo, aveva detto, poi ha ribadito anche la decapitazione di Foley è il frutto della politica americana nella zona. Sentiamo Giarrusso. Scusate, l'ISIS mi pare che sia ben armata e ben finanziata, lo vogliamo capire, lo vogliamo dire chi è che la finanzia? No! Lo vogliamo capire che sono i paesi del Golfo? Ma non che è sono i paesi, che è il paese dove volete andare a fare i mondiali di calcio, il Qatar, il principale finanziatore dell'ISIS? Ma non è e ci sono i sauditi dietro, i principali alleati degli americani? Ma non è quello il lo vogliamo punto. Dire o no? O perché, o perché ci Giarrusso, sono lo dico. Interessi? Ah, non è quello il punto è Di Battista o chi arma l'ISIS? A parte il Qatar, pronunciato così da Giarrusso, bisogna dire la verità, cioè a parte le analisi dei giornalisti, degli analisti, di chi ha visto, è stato testimone in Iraq, in Siria, anche di chi non c'è stato e azzarda delle analisi, ospiti internazionali sui giornali e nelle televisioni, però nella politica gli unici a bucare il muro del conformismo sul fatto che bisogna fare la guerra in Iraq, bisogna bombardare l'ISIS, armare i curdi eccetera eccetera, sono quelli del Movimento 5 Stelle, che tentano di fare qualche riflessione, di capire qualche cosa, che poi non vuol dire, non deve per forza essere, come dice qualcuno, essere fiancheggiatore dei terroristi. Cosa c'entra, cosa vuol dire? Quelli del Movimento 5 Stelle cercano, anche in mezzo a teorie complottiste che non stanno né in cielo né in terra, però di tentare di capire che cosa sta succedendo da quelle parti, e mi sembra una cosa che dovrebbe fare chiunque, sia che sia diciamo armato da intenzioni armate, ma anche pacifiche. Vai. Di Battista ha detto una cosa fondamentale, che è stata ribadita anche da Gino Strada, è stata ribadita anche dal Papa: con la guerra si creano altre violenze, altre disperazioni. Allora, chi ha dato causa al conflitto non può presentarsi quindi come paciere. Qua ci vuole un intervento umanitario dell'ONU che metta in sicurezza le popolazioni. Andare a bombardare, crea altra disperazione, altra violenza, in un circolo vizioso che va spezzato. È questo che voleva dire Di Battista. Ci vuole l'intervento umanitario dell'ONU per gestire il traffico dei profughi nelle zone della Siria e dell'Iraq che sono colpite dai massacri dell'ISIS. Invece, per Paolo Sisto di Forza Italia, l'ONU dovrebbe intervenire, sì, ma in Italia, per la questione immigrati. Secondo me non basta neanche l'Europa, addirittura io credo che sia necessario rivolgersi all'ONU, cioè perché questo tipo di interventi va bloccato alla fonte. Io non voglio ovviamente ricordare il patto con Gheddafi, che comunque aveva bloccato per molto tempo questi sbarchi. Non fisicamente, i supplenti non saranno eliminati, non lo dico per scanso di equivoci. Ragionare in termini di organico funzionale e non di organico di diritto, che si distingue dall'organico funzionale, è come dire l'uovo di Colombo che chi lavora nella scuola conosce da tempo, ma che nessun governo ha avuto il coraggio di affrontare direttamente, perché significa prendere coscienza, come ho detto, che le supplenze non fanno bene né a chi le fa né a chi le riceve. Abbiamo chiuso la rassegna con il ministro dell'istruzione Giannini, che anticipa alcune delle possibili novità che ci saranno per la scuola. Tocca attendere ancora qualche giorno per sapere cosa di concreto ci sarà in Consiglio dei Ministri. Gli insegnanti, devo dire, come capita quasi sempre ogni volta che c'è una novità nella scuola, che sono già in allarme, sul piede di guerra, preoccupati da quelle che sono queste anticipazioni. 800 24 00 24, il motivo per cui vi ho chiesto di ascoltare questa canzone è che stasera dovete dirci chi è l'autore di questa canzone, in che lingua viene cantata e anche uno spezzone del testo in italiano. Moschee sì, moschee no, sono tante le città italiane nelle quali si discute da tempo, in alcuni casi si sono anche realizzate dei centri, luoghi di culto per musulmani in Italia. Moschea sì, Milano, Genova per esempio. La Lega Nord in Consiglio regionale della Lombardia vuol portare una proposta di legge per istituire un referendum in ogni comune prima di decidere se istituire o no, dar spazio o no ad una nuova moschea, un referendum tra gli abitanti di quel comune per decidere se si è a favore o contrari. Ne parliamo con Fabio Rolfi, consigliere regionale della Lega Nord in Lombardia. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, esattamente in che cosa consiste la vostra proposta? Ma consiste in un progetto di legge al quale stiamo lavorando, che prevede una serie di misure più che altro urbanistiche, perché sì, è l'unico ambito sul quale possiamo con competenza legislativa intervenire, per andare a un po' stringere il campo di azione. Oggi le moschee nascono prima ancora come associazioni culturali, in scantinati, in capannoni sfitti, un po' ovunque in maniera disordinata, e attraverso questa stratagemma di fatto ottengono quello che tecnicamente è chiamato cambio di destinazione d'uso senza neppure passare per il Consiglio Comunale. Quindi vorremmo trovare strumenti un po' più, come dire, di pianificazione da dare in mano ai sindaci per appunto governare un fenomeno che fino ad oggi abbiamo subito. Senta, perché una delle cose che voi dite è questa, cioè le moschee sono luoghi dove si predica l'odio nei confronti dell'Occidente, dove addirittura germina il terrorismo. Ora, quest'estate Alfano ha spedito via un imam che in effetti in una sua predica, speriamo sia un caso isolato, però era stato registrato a dire uccideteli uno a uno, e credo che si riferisse a Israele e agli israeliani. Non era ancora scoppiata la questione dell'ISIS, ma c'era già la guerra tra Israele e Gaza. Però diciamo il dubbio che viene, diciamo, con questa proposta di quantomeno di limitare la nascita di nuove moschee, non si ottiene l'effetto contrario? Cioè, non è meglio avere delle moschee, luoghi di culto trasparenti, regolarizzati, piuttosto che, come diceva lei, avere degli scantinati, dei luoghi dove non si sa? Perché insomma i musulmani in Lombardia ci sono, quanti sono? Ma sono tanti, il problema non è questo. Due considerazioni. Sì. La prima, questo in mano non è un caso isolato, perché se andiamo a fare una ricerca in internet negli ultimi 10 o 15 anni di quanti imam sono stati allontanati dai nostri servizi, diciamo, di sicurezza, per questa ragione troveremo molto più di uno, tanti. Ricordo l'imam di Cremona, quello di Torino, la moschea di Cremona venne anche chiusa per queste ragioni, il caso di Viale Jenner a Milano. E vado a memoria, ce ne sarebbero tantissimi. Nella mia provincia Brescia abbiamo un ragazzo arrestato e poi liberato dalla magistratura perché era innocuo, che è a combattere in Siria, e sono casi molto diffusi. Seconda considerazione, io credo che oggi, i fatti lo hanno dimostrato, è dentro le moschee più o meno autorizzate, più o meno ufficiali, che si raggruppano questi islamici. Certo, tanta gente che lavora, paga le tasse, che mai si sognerebbe di fare il combattente per la Jihad, ma tra questi anche quelli che vengono infarinati, vengono, come dire, surriscaldati a livello cerebrale, vengono aizzati da imam che spesso arrivano da paesi esteri che manco conosciamo, e vengono qua a predicare in una lingua che non capiamo, cosa che appunto fanno terminare questo sentimento. Questo è chiaro, la preoccupazione è legittima, è giusta, però insomma c'è un problema, no? La questione dell'assicurare comunque la libertà di culto ai musulmani in tutta la regione, perché altrimenti mi viene in mente, no? È un po' come se negli anni 70 si fosse detto, siccome nei circoli culturali ci sono gente che bazzica le Brigate Rosse, chiudiamo tutti i centri culturali, tutte le librerie, e non era una cosa possibile da fare. Cioè bisogna andare in modo mirato, non diciamo di chiudere, diciamo che in un momento storico come questo bisogna forse aprire i riflettori, non chiudere gli occhi come si è fatto per tanti anni, perché poi l'Italia è un paese strano, scopriamo i problemi solo di fronte alle emergenze. In realtà il problema c'è, è cresciuto in questi anni anche negli immigrati di seconda generazione. Quindi crediamo che in un momento così delicato forse la libertà di culto è un faro, è un obiettivo che va sempre garantito in un paese liberale come il nostro. Certo. Però forse qualche limitazione, qualche elemento di prevenzione e di controllo in più oggi va fatto. Altrimenti rischiamo veramente grosso per la tenuta futura del nostro paese. No, ma sicuramente controlli, regolamentazioni e autorizzazioni, tutto questo ci deve essere, evidente. E, insomma, io per esempio penso a Milano, è tanto che si discute di una moschea, però ecco, mi sembra che non ci sia un'esagerazione al momento di moschee. Qualcun altro dice un'altra sparata estiva della Lega, perché un referendum su questa cosa in realtà non si farà mai, anche perché sottoporre un diritto di una minoranza, come è ovviamente quella dei musulmani in Italia, ad un voto, non si può fare, perché è un po' come le minoranze linguistiche in Italia, no? Cioè, se noi lo mettessimo a referendum, nessuno avrebbe tutelato le minoranze in Val d'Aosta o altrove. Tra l'altro, voi della Lega, sulla questione linguistica. Abbiamo vicino perché, a noi un paese democratico, liberale. Come la Svizzera, dove si fanno referendum ogni mese, lo si fa anche su questi temi. Noi crediamo che di fronte a un tema che oggi è molto delicato, è come dire un tema che determinerà come lo affronteremo il nostro futuro, perché siamo di fronte, anche per responsabilità nostra, a immigrazione di massa di immigrati che provengono da paesi islamici. Forse gestire un fenomeno come questo con una cautela maggiore, quantomeno, cerco di essere moderato, servirebbe. La Svizzera ce lo insegna, quindi perché non si può fare? Chi lo dice che non si può fare? No, ma infatti ce lo stiamo chiedendo, frate, il titolo del programma, si può fare, ce lo chiediamo. Però le rifaccio allora la domanda da un altro punto di vista, cioè mettiamo che si approvi questa legge in Consiglio regionale e quindi per fare un nuovo moschea in Lombardia ci voglia un referendum. Facciamo un referendum e la maggioranza, anche spinta dalla paura del momento, dice di no. È giusto, diciamo, togliere la possibilità alla minoranza di islamici di avere una moschea perché la maggioranza è contraria? Secondo lei questo sarebbe? La mia risposta? La risposta è sì. Primo, perché di moschee ce ne sono già. Quindi per una minoranza, appunto, le tre moschee che ci sono a Brescia, la mia città, che fa meno di 200.000 abitanti, penso che siano sufficienti. Vorrei capire quante chiese ci sono in un paese della stessa dimensione, nei paesi di provenienza di questi immigrati. Però noi siamo diversi o no? Scusi, cioè nel senso. Siamo diversi, ma non siamo fessi, e questo è il tema. Ma quindi non essere fessi ci può portare anche a essere un po' come loro, o in alcuni casi? No, io difendo le mie diversità. Ripeto, di un cittadino che fa parte di un paese liberale che vuol difendere la democrazia liberale, ma si deve difendere questa democrazia, che è il modello, credo, di civiltà più diffuso. Se di fronte a noi un interlocutore che lo riconosce, non che vuol cancellarlo, questo è il tema. Allora, sottoporre al referendum, quindi a un parere della comunità di accoglienza, come quella lombarda in questo caso, servirebbe anche indurre le associazioni che rappresentano queste moschee. Voglio ricordarne alcune che sono magari anche di posizione molto estrema, come l'UCOI, ha un atteggiamento più dialogante, più in grado di interloquire con la comunità d'accoglienza, più rispettoso delle leggi che devono rispettare, non pretendere di cambiare. Però scusi, chi direbbe sì, voglio la moschea nel mio comune? Ora faccio un paragone che può sembrare brutto, ma sarebbe come dire chi vuole la discarica nel suo comune? Cioè nessuno vuole cose che potenzialmente creano problemi vicino casa. Però bisogna fare sia le discariche sia le moschee, e non c'è nessun parallelismo da parte mia. È semplicemente che si debbono fare delle moschee, parliamone, ma secondo lei come mai non è mai sorto un problema con un tempio buddista, con una sala dei testimoni di Geova, con tante altre professioni religiose che ci sono nella nostra regione democratica, liberale, accogliente come la Lombardia? Perché? Non lo so, me lo dica lei perché. Forse perché problematiche di sicurezza, convivenza, ordine pubblico e pretesa di cambiare anche l'ordinamento giuridico del paese che ti accoglie. Sì, ma infatti guardi, io sono talmente d'accordo con lei che, citando ancora Milano, lei conoscerà, c'è stato per lungo tempo un problema in Viale Jenner, proprio perché, non volendo dare uno spazio adeguato e una moschea, perché le moschee, come le chiese, ma in particolare le moschee, sono molto grandi, ci vanno tante persone. In Viale Jenner c'era la gente per strada che pregava. Questo anche secondo me non va bene, perché crea un problema, no? Anche di sicurezza, forse, a un certo punto, se succede qualcosa. Però questo è quello che è successo, ma non perché c'era la moschea, perché non c'era. Infatti andava fatta un'ordinanza per evitare che pregassero per strada, anziché accettare questa situazione. Dove avrebbero dovuto pregare se non c'era la moschea? Ma allora, non mi sembra che a Milano manchino gli spazi per pregare. Io conosco benissimo la mia città, che ho anche amministrato, le dico che ci abbiamo già 3 moschee, nonostante questo, che è Brescia appunto, sì, ne nascono ogni giorno in scantinati e in soffitti e ovunque. E questa situazione non può essere tollerata, perché ripeto, parliamo di realtà di cui non conosciamo nulla, non conosciamo dove vengono le risorse, non conosciamo chi va a predicare, non conosciamo quello che dicono, sappiamo soltanto a posteriori i problemi che si verificano, tipo soggetti che poi partono dalla moschea per andare a combattere in Siria, ed è successo in città a Brescia. Sì. Voglio dire, ci chiudiamo gli occhi di fronte a questo e cerchiamo di affrontare oggi il problema con logica, se vuole anche emergenziale, ma che va affrontata. Domani le realtà islamiche, le comunità islamiche anche lombarde avranno un orientamento differente, non avranno nessuna timidezza nel condannare l'estremismo. Io non ho sentito oggi grandi prese di posizione, sono isolate, da parte di rappresentanti delle comunità islamiche lombarde di condanna di quello che sta avvenendo nell'Occidente. Non lo sentite, francamente? Verso quello che sta accedendo dove? Nel Medio Oriente, scusi, sì. Non ecco, l'ho visti con la stessa fermezza con la quale hanno avuto alcuni nel condannare, sì, Israele. Secondo lei però che cosa sta succedendo in Iraq? Cioè è una guerra tra Occidente e Islam, tra cristiani e Islam, secondo lei, noi e loro? È una situazione molto complessa, ma l'atteggiamento che mi sembra il califfato sta avendo è evidentemente di cancellazione della presenza non islamica in quelle terre, mi sembra evidente. Però si ammazzano anche tra di loro, sunniti e sciiti. L'ho detto che è una cosa sicuramente molto complessa, con responsabilità di alcuni paesi ricchi della zona che finanziano questa. Ecco, a questo proposito è molto complessa sicuramente, è chiaro. Lei, se sto parlando con un consigliere fondo, regionale, non è che possiamo l'elemento pretendere. Certo, ma l'elemento ideologico di fondo è, come dire, che porta avanti l'esercito islamico dell'ISIS è molto evidente, e questo è anticristiano, è anticattolico, senta, è anti qualsiasi religione, sì, non islamica. Abbiamo fatto sentire poco fa l'onorevole Giarrusso del Movimento 5 Stelle, che diceva il Qatar finanzia, è una cosa che è venuta fuori negli ultimi giorni, con miliardi di dollari l'ISIS, ammesso che sia vero, che sia dimostrabile, però è un'ipotesi. Il Qatar è un paese col quale tutti hanno rapporti tranquillamente, addirittura ci vogliamo fare i mondiali di calcio. Lei che ne pensa di questo? Si scandalizza? Ma è plausibile il Qatar, è plausibile che faccia questo per ragioni anche anti-iraniane, per non lasciare l'Iran il dominio della zona. Ma sarebbe giustificato però, scusi? Che cosa? Giustificato che finanzi l'ISIS? Sì. No, non è giustificato per nulla, non è mai giustificabile finanziare la violenza, lo sterminio di qualsiasi popolo, ma è dal punto di vista della geopolitica della zona, come dire, plausibile che questo avvenga. Io le prove non le ho, francamente, leggo tutti sui giornali. Certo. Certamente il rapporto che l'Occidente, USA in primis, hanno sempre avuto col mondo islamico è quantomeno contraddittorio. Ricordiamoci, tanto per fare un esempio, che oggi mi sembra di leggere che gli Stati Uniti d'America immaginano una collaborazione con la Siria per fermare, sì, l'ISIS. Fino a poco qualche tempo mese fa volevamo bombardare Assad, quindi sì, questo la dice lunga sul comportamento contraddittorio e anche responsabile dell'Occidente su questa violenza, perché la causa della Libia di oggi è causa anche degli errori passati. Però ecco, visto questo, visto quello che lei dice, a mandare armi ai curdi è stato corretto secondo lei? Bisogna affermare questo sterminio dalle proporzioni incredibili, dalla ferocia, dalla violenza che è paragonabile a tragedie di qualche decennio fa. Noi giustamente ricordiamo con dovere ogni anno la tragedia della Shoah, ci mancherebbe altro, va scolpita nelle memorie delle giovani generazioni, ma quello che sta avvenendo là con bambini, donne, uomini sepolti vivi è di una crudeltà che è pari a quella nazista, quindi lì va fermato a tutti i costi, anche per le ripercussioni che può avere. Immaginiamo i flussi migratori che potremmo avere nei prossimi mesi, caos libico più questo, quindi credo che qualcosa va fatto e vanno trovate le misure più opportune. Questo compete chi deve decidere, non certamente a me. Va bene, grazie Fabio Ruffi, buona serata, grazie per essere stato con noi. 800 24 0024, borsa. Si può fare, si può tenere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare l'attualità, anche d'estate. E Il nostro contributo alla cultura e al turismo noi lo diamo così, mettendo in palio anche questa sera i biglietti per la mostra di Andy Warhol a Roma e la mostra All'origine delle sensazioni, Villa Panza a Varese, una mostra del FAI. A chi però conosce le lingue e ci sa dire in che lingua è cantata questa canzone, anche un pezzettino del testo. Turista, turista, turista, turista, turista, P-U-R-I-S-T-A, son turista, prese takto ma, se nek vandaliro, ďalšie mesto da. Basta, sfumiamo perché sennò diventa troppo facile e andiamo con gli ascoltatori. Federico che ci chiama da Pisa, buonasera. Buonasera, io volevo raccontare brevemente la mia esperienza turistica legata anche a TripAdvisor e alle critiche. Praticamente ho cercato più volte di contattare anche via mail un piccolo albergo nella località toscana, non so se posso dire il nome, Equiterme, vicino certo, a Aulla, sì. E anche mia moglie telefonicamente ci aveva detto un prezzo che erano 70 euro per la camera, siamo io, mia moglie e mio figlio. E gli ho detto a mia moglie, ma non mi sembra molto, comunque, beh, meglio così. Ho detto, ma facciamoci dare una conferma per email, una caparra. Hanno sempre negato, no, no, non importa, va bene, tutta per voce. Arrivo, facciamo questo giorno in questo Equiterme, che c'è una piccola piscina termale, al momento di pagare, paghiamo e, diciamo così, il personale che ci fa pagare, che non era molto esperto, neanche ben usare il bancomat, ci fa pagare 70 euro. Ah, e la mattina, sì sì, noi poi anche il pomeriggio ha detto che potevamo rimanere nella piscina annessa all'hotel, che era aperta a tutti, però quelli dell'hotel non pagavano l'ingresso alla piscina, diciamo. Sì. Quindi mentre sono in piscina vedo questo ragazzo che torna verso di noi e fa, no, scusate, il titolare mi ha detto sbagliato, era 70 euro ma a persona, quindi insomma dovete pagare altri 70 euro. Ah, vabbè, però moglie... c'è stato un malinteso. Un malinteso però che secondo me era voluto, perché noi più volte avevamo chiesto una conferma scritta anche per poter dare una caparra, capisci? Sì. E quindi niente, e io ho detto a mia moglie, vabbè. Quindi 70 euro, scusa, a persona, cioè più anche il bambino, 140, scusa, no, il bambino. No, certo, era sì, 70 a persona, quindi per 240, che se io avessi saputo che era 140 non sarei andato. Beh, sì. L'albergo, fai conto, aveva 40 camere di cui solo 7 occupate nella settimana precedente quella di Ferragosto, quindi insomma alta stagione. Era pressoché vuoto. Solo... Quante stelle, posso chiedertelo? Sì. Tre stelle. Lì ci sono solo due alberghi, sì. Quell'altro è proprio un due stelle, piccolino. E Equiterme fu famoso anche perché una delle ultime volte dei terremoti in Toscana colpì anche un po' quella zona. Com'è finita questa storia, Federico? È finita che praticamente io ho mandato mia moglie a chiedere spiegazioni, perché io sennò forse andava a finire male. Si presenta il titolare e fa, no, ma guardi che in camera era esposto il prezzo. In effetti in camera ci sono sempre i prezzi esposti, però diciamo che per esperienza personale sono i prezzi massimi che spesso poi non vengono praticati. E mia moglie ha insistito e gli ha detto a un certo punto, va bene, non c'è problema, vorrà dire che lascerò un po' di recensioni in giro. E questo si è subito in una tirata e fa, allora se voi siete dei pezzenti, ha detto, io gestisco 12 locali, guardi, oggi siete miei ospiti e ora non assumerò neanche più questi dementi, cioè ha offeso il suo personale. Ma quindi alla fine avete pagato quanto alla fine? Alla fine 70 euro, però ecco, diciamo che... Diciamo, poi, previa minaccia di recensione negativa, cioè sì, lei sì, mi sta sì, dicendo che le recensioni le temono gli albergati. Vabbè, questo. L'avevamo capito. Comunque, grazie Federico, sì. C'è una morale in tutto questo che voleva aggiungere o no? Sì, c'è una morale che secondo me, cioè nel senso, si lamentano, ma è un po' colpa anche degli albergatori, perché poi parlando con altre persone lì intorno alla piscina, questo aveva già fatto altre persone storie del genere, cioè chiesto cifre diverse a seconda delle persone. Conto c'era anche un po' ci provano, è vero, è stata dimostrata anche con tanti, che soprattutto con i turisti stranieri magari che non sanno bene l'italiano. Grazie Federico, grazie. Andiamo con Claudio che chiama dalla provincia di Brescia, buonasera. Sì, buonasera, io ho sentito prima Rossi, così, che tra l'altro è come me bresciano, sì. Diciamo, non sono contrario a priori, gli permetto, io non sono leghista e non ho mai votato per il Lega, però pone comunque delle cose, dei temi che sono, soprattutto in questo periodo qua, diciamo interessanti, nel senso che garantire la libertà religiosa è un principio importante, però bisogna vedere cosa insegnano in quelle moschee, cosa dicono, ci vorrebbe un traduttore per verificare se istigano alle, diciamo, all'odio o meno. Poi una considerazione: noi ci troviamo adesso a gestire i cocci di vasi che altri hanno rotto, cioè a fuori di metafora ci troviamo a gestire delle situazioni che non erano 10-20 anni fa, non erano così, nel senso, la guerra in Iraq l'ha voluta Bush raccontandoci delle palle assurde sulle armi di distruzione di massa che poi non c'erano. Perché sì, tutto sommato Saddam era stato un dittatore, era un dittatore cattivo, però l'Iraq a quel tempo era un paese laico, garantiva comunque una certa laicità, non era un paese. Non solo, ma un dittatore cattivo che era stato appoggiato prima nella guerra contro l'Iran, perché l'Iran veniva considerato peggiore, e quindi è sempre la scelta dell'alleato meno peggio, che però non è che abbia, come dire, cioè ha portato molto bene sin qua. Claudio, va bene, grazie, buona serata. Andiamo con Marco che ci chiama da Como. Buonasera. Io volevo fare un intervento riguardo il turismo, riguardo quello che l'intervento fatto precedentemente sia dall'ascoltatore precedente quanto dalla Mussolini. L'ascoltatore precedente non ha fatto altro che confermare quello che penso. In Italia c'è una forte disonestà da parte di chi si occupa di turismo, specialmente da parte di coloro che si occupano di fare le tariffe e di andare a visitare luoghi archeologici come musei, come cose del genere. E praticamente la mancanza di onestà da parte di tutti gli operatori, non lo dico tutti, della maggior parte, porta a queste situazioni. Queste situazioni sono deleterie, specialmente se uno è un turista straniero. Perché io ho provato a trovarmi addirittura, che so, a noleggiare un'auto e sentirmi il noleggiatore che mi dice: no, guarda, queste qui sono le tariffe per gli inglesi, tanto loro c'hanno l'asterino, non capiscono un cavolo, vabbè, detto così. E a me fa praticarmi metà prezzo. E perché? Cioè, vale questa cosa? Vale nei confronti poi di quello che ci dicono noi all'estero, no? Cose del genere. Io, per esempio, invece a New York trovi il classico venditore di abbonamento del pullman o pom, quelli lì che sali e scendi, sì, e quasi quasi non ti fidi, perché dici: no, questo mi sta stando una sola. E invece poi scopri che in realtà è esattamente il contrario, cioè lui costa 8 pagare un biglietto per questo pullman qui per 4 giorni, compreso l'ingresso all'Empire State Building, e se andare a prendere solo l'ingresso all'Empire State Building paga praticamente più che tutto il resto, perché lì c'è, questa è onestà, no? È la vera politica del pacchetto dove c'è un'offerta. E invece, esatto, spesso in Italia non è così, quello, non sempre, però. In Italia no, esattamente, sì. Cioè, spesso è il contrario. Poi, vabbè, la Mussolini che racconta che va a spendere tanti soldi per vedere un castello diroccato. Io sinceramente ho girato molto l'Europa, ma tanti soldi per vedere castelli diroccati o meno, o anche musei, non ho quasi mai spesi. Le tariffe sono quasi sempre abbordabili. Sì, ma soprattutto grazie Marco, soprattutto ci aspetteremo da un eurodeputato qualcosa di più, cioè una proposta, non che ci racconti le sue vacanze. Lo sappiamo tutti che all'estero, se c'è un sasso, ci mettono intorno un recinto e fanno pagare il biglietto, o anche più di un sasso, e noi abbiamo molto di più. Però lei è deputato italiano, a lei tocca di fare delle proposte anziché di raccontarci come sono andate le sue vacanze, perché questo è un livello francamente un po' misero, mi sembra. Alberto da Padova, buonasera. Buonasera, volevo fare un paio di osservazioni. Prego. Riguardo quello che ha detto Rossi. Prima, Rolfi, il consigliere regionale della Lega, Rolfi, sì. Esatto, allora la prima è questa, e non l'ha detto soltanto lui, cioè, come pensa sta gente che la polizia, la Digos, sia venuta a conoscenza di questi imam che fanno proclami o che arruolano gente, proprio perché si riuniscono in posti conosciuti, trasparenti alla faccia di tutti, ci sono informatori oppure ci piazzeranno le microspie. Quindi non è che cacciando sta gente o chiudendo le moschee si elimina il problema, anzi probabilmente si aumenta il problema, perché non si riesce a controllarli. Stessa cosa che sta facendo il nostro caro sindaco di Tonci qui a Padova, che non intende più affittare le palestre chiuse durante in quei periodi, intende affittarle per il Ramadan, e poi questa gente dove va? È questa l'integrazione che vogliamo? Sì, l'ho detto anch'io a Rolfi, che avere dei luoghi trasparenti di culto, ma questo lo dicono anche loro. Lo dice anche lui, salvo poi appunto voler limitare la nascita di nuove moschee. Grazie Alberto, risentiamo. Turista, turista, turista, turista, turista. P-U-R-I-S-T-A, son turista. Prese takto ma, sono jak bandaliro. Che lingua è? Di cosa parla questa canzone? Ci vincono anche questa sera i biglietti per le mostre di cui ho parlato prima. Traffico. Gli uomini sessuali sono gente tali e quali come noi. Noi normali sanno piangere, sanno ridere, sanno battere le mani, proprio come noi persone sani. Buonasera Angelo Figuccia, consigliere. Buonasera. Consigliere comunale a Palermo? Sì. Consigliere comunale a Palermo di Forza Italia o Movimento per le Autonomie? No, no, sono stato eletto con il Movimento per le Autonomie, ma dopo il fallimento dell'idea dell'indipendenza della Sicilia. Vabbè, non è che ci volesse molto per saperlo che l'indipendenza della Sicilia non si sarebbe realizzata in una legislatura, insomma, in un anno. Vabbè, Figuccia. Però purtroppo è andata così. È andata sono tornato a Forza Italia dove politicamente sono nato. Ecco, le piace Checco Zalone, la sua parodia? Ma guardi, non lo seguo molto. Ma l'ha sentito adesso? Ah, questa battutina così, sì, ma sa. Vagamente perché non mi arrivava bene all'orecchio, però. Facciamoli risentire. Sanno piangere, sanno ridere, sanno battere le mani, proprio come noi persone sani. Ha sentito? Il significato. Ecco, no, glielo chiedevo perché è una parodia sui gay, ma anche su chi ha pregiudizi nei confronti dei gay. Lei ci va giù pesante. Io non ho pregiudizi, assolutamente. No, a giudizi, poi non so se sono pregiudizi o no, cioè no, alle sue idee. Neppure, ascolti, io sì. Da questo punto di vista non è che ognuno può condurre la vita che vuole. Nel rispetto chiaramente di quelle che sono le regole, certo, se la certo. Gente si mette a fare carnevalate come il gay pride, lo sapevo, non ci sta bene, quindi, ma tutto sommato, ma non ci sta bene a chi, scusi, a lei o a chi altri? No, diciamo che a quella maggioranza di gente silenziosa che poi alla fine vuole condurre una vita normale in una famiglia normale. Sì, poi, ecco, però scusi, fermiamoci un attimo, allora riepiloghiamo. A Palermo c'è stato il gay pride quest'anno. L'anno scorso. Quest'anno c'è stata. Sì, ma ci sono stati, diciamo, i finanziamenti sono stati piccoli, allora è stato fatto in modo ridotto. Però lei dice che alla maggioranza dei palermitani degli italiani la maggioranza silenziosa gli dà fastidio. Di quelli che non parlano, che poi conducono la loro vita tutti i giorni. Che cosa fanno? Sono per una famiglia normale. Sono assolutamente per una famiglia normale, tant'è che, come lei sa, proprio il 25 giugno l'ONU ha decretato che la famiglia naturale è l'unica rappresentativa. Non ci sono altre famiglie che possono rappresentare l'essere umano. Vabbè, guardi, io ho una famiglia, non lo so se definirla naturale oppure no, sono sposato, ho una figlia. Sono contento per lei, come me pensi che io sono pure nonno. Fantastico, è una bella soddisfazione. Però non è che mi dia fastidio se c'è il gay pride o se qualcun altro vuole stare in coppia omosessuale. Quindi faccio parte di una minoranza. A me non dà assolutamente fastidio. Se lo fanno nel chiuso delle loro mura, poi quello. Ma per quale motivo dovrebbero stare al chiuso? Scusi, per non dare fastidio a lei? No, a me. Allora io potrei dire che a me quelli che si chiamano Figuccia devono stare a casa loro perché mi danno un po' fastidio. No. Non è come dice lei, non è assolutamente come dice lei. E com'è allora? No, non è assolutamente come dice lei, perché noi siamo abbastanza tolleranti, noi crediamo... Ma noi chi? La maggioranza silenziosa. La maggioranza silenziosa. Sì, la maggioranza silenziosa è tollerante, sono d'accordo con lei. Lei perché mi dice, e non ho motivo per dire che non è così, lei c'è una famiglia naturale, normale, con una figlia, sì. E quindi lei appartiene a quella maggioranza silenziosa che è tollerante. No, e su questo mi ritrovo, non mi ritrovavo sul fatto che, come ha detto prima, ha cambiato un po', ha detto che alla maggioranza silenziosa dà fastidio il gay pride e loro lo devono fare al chiuso. Dà fastidio, non mi spiego meglio, sì. Dà fastidio perché nel caso particolare l'hanno fatto in un luogo pubblico a spese del comune, mentre succede in questa città, c'è tanta gente che muore di fame e la sera non ha dove allora, andare a dormire. Lasciamo da parte il Gay Pride, perché è sembrato quasi, lei diciamo, ha portato in Consiglio Comunale a Palermo una mozione che poi è stata votata per istituire una festa della famiglia naturale. Naturale, perfettamente, sì. E quando si farà questa festa? Questo, guardi, è un problema del sindaco, perché lei, come ben sa, me lo può insegnare, chiaramente il Consiglio Comunale è un organo di proposta, sì. non si determina su queste cose. Quindi deve deliberare la Giunta. La Giunta deve deliberare, chiaramente il sindaco, che è stato già in queste ore molto attaccato da esponenti, diciamo, di estrema sinistra, sì, che si rivedono nelle idee, diciamo, degli omosessuali, eccetera, lo stanno contestando e dicono: senti sindaco, ma tu adesso cosa farai, se è vero come è vero che soltanto un anno fa la tua maggioranza ha votato all'unanimità per le coppie, per l'unione per il delle registro coppie civile, sì. Perfetto. Ora come fai, secondo alcuni di loro, tanti di loro, è diciamo non coerente, vabbè, con quello che hanno fatto. Ma questo è un problema di Orlando, non è un problema. Io però non posso credere che lei creda veramente a quello che dice, perché questa votazione di questa festa alla famiglia naturale è stata condita da parte sua di affermazioni un po' per me strampalate, cioè l'omosessualità deriva da traumi come violenza in famiglia o essere avvicinati da pedofili. Ascolti, questo non nego di averlo detto, tuttavia le dico che ad un ragionamento informale, totalmente informale con ogni probabilità, con un giornalista ha preso queste mie parole e le ha pubblicate per intero, ci può stare. Ma ecco, ma secondo lei, cioè, l'omosessualità è nasce, lei poi in un'altra frase dice, nasce in contesti di famiglie non sane, cioè non ci può essere in una famiglia sana un bambino che sviluppa l'omosessualità. Questo non lo dico io, lo dice la scienza. Lei si documenti su quello che dice la scienza, e non è vero. E cosa dice la scienza? Che purtroppo sono delle patologie spesso. Ma che, quale scienziato? Mi dica un nome di uno scienziato, un testo che ha letto, che io non lo so, non sono un esperto di questa materia, però se lei lo afferma... Assolutamente, lei si documenti bene come mi sono documentato io. Ma mi dica dove devo andare a cercare? Lo cerchi su internet. Cosa devo cercare su internet? Lei cerchi la questione legata appunto... Perché guardi che su internet c'è di tutto. È una patologia. Se lei no? Si è documentato su internet, stia in guardia, perché c'è di tutto. Bufale, girano delle cose complottiste, pieno di bufale su internet. Ci sono tante lobby pure, tra l'altro, pensi. Io non appartengo a nessuna lobby, sono una persona semplice. Che... Quindi lei si è documentato su internet così, un po' alla buona, insomma, Figucci. No? Figuccia. Figuccia, si è documentato un po' così come capitava su internet, non è che abbia delle fonti proprio serie, scientifiche. No, sono serie scientifiche. Però non si ricorda, quali sono queste fonti. Non è opportuno che io le faccia i nomi delle persone che mi hanno... Però ha detto che, vabbè, questo lo dice lei, io invece vorrei che mi... Ha detto che ha scritto anche al Papa e non l'ha risposto. Ci credo, perché il Papa ha detto: chi sono io per giudicare un gay? Sbaglia anche il Papa? Stiamo attenti su questa cosa. Il Papa ha dei doveri, no? Rispetto al suo mondo cattolico, perché guardi, rispetto ai suoi proseliti, perché io intanto non sono cattolico e non ho religioni, che qualcuno ne possa dire. Io credo in un solo Dio, punto e basta, e a lui mi rivolgo sempre, per cui papi, papini, cose... Io non... Quindi lei non lo segue il Papa, è un cattolico che non segue il Papa? No, io non sono cattolico. Non è cattolico, scusi. No, quindi assolutamente. Allora perché ha scritto al Papa se non è cattolico? Ho scritto al Papa perché è una persona che rispetto a questi temi generalmente, quindi parlando di pedofilia, parlando di tutta una serie di cose rispetto a quella che è la vita di tutti i giorni e la famiglia, siccome... Questo signore Francesco parla tanto della famiglia, io mi sono rivolto a lui come uomo, uomo che rappresenta nella società mondiale qualcuno esprime delle opinioni e quindi comunque sappia che il Papa Francesco ha detto chi sono io per giudicare un gay, e poi per l'OMS l'omosessualità non è una malattia, si arrenda, la scienza dice questo, figuccia. No, si arrenda lei perché non lo dico io, questo lo sai chi lo dicono? Chi lo dicono? Lo dicono i medici e là c'è delle lobby. Sì, però lei non cita mai una fonte, figuccia, ci dobbiamo risentire e ci deve dire chi gliel'ha detta questa cosa qua, e allora va bene, altrimenti sono boiate. Turista, P-U-R-I-S-T-A, som turista, prese takto ma, som jak bandaliro, ďalšie mesto, ja som turista. Il nostro indotto principale non sono più l'industria pesante, è il turismo. I turisti che devono pagare, ma non 3 euro come succede, ma come succede all'estero 70 euro per vedere i monumenti, questo è il nostro petrolio, oltre, perché non si fa, è come se non esistesse il turismo, l'Italia è solo per questo. Io sono andato in Scozia, ho visto una rovina, non c'era un castellaccio rotto, allora, e abbiamo pagato. Certo, abbiamo pagato, io sembrava che chissà che dovessi vedere, ho detto ma questo che è? Mezzo castello ammosciato su una costa. Ma perché io devo sentire ancora un deputato, un eurodeputato che è deputato chissà da quanti anni la Mussolini, quando è stata eletta la prima volta la Mussolini, chi lo sa, dire questa cosa del petrolio, il turismo è il petrolio, lo posso dire io che non ho mai avuto ruoli di nessun tipo di governo, lo può dire il cittadino comune, lo può dire chiunque, ma i politici non dovrebbero più dirla questa cosa qua, dovrebbero farla nell'estate nella quale si è parlato di tutto, di immigrati, di Vucumpra, di riforma del Senato, di adesso di riforma della scuola, aggiungete quello che volete, non si è sentito parlare nessuno con ruoli di responsabilità veramente su come rilanciare questo benedetto turismo nel nostro paese, il vero petrolio, io sì lo posso dire, e tocca dare ragione alla fine a Sgarbi. Cosa capita in Italia paradossalmente? Che grazie alla parte peggiore di Pannella noi abbiamo cancellato il Ministero del Turismo in Italia. Quello dell'agricoltura, che è rinato come risorse agricole e politiche, quello la mancanza sì, che era insieme, ma il Ministero del Turismo vuol dire che uno si applica a capire quali realtà possono svilupparsi e a promuoverle. Invece hai le regioni che si muovono in maniera assolutamente schizofrenica, si muove Vendola e sembra che sia il Presidente d'Italia, si muove Maroni, ognuno va come funziona, come vuole, e non c'è un'idea dello Stato e dello Stato della bellezza. Gli alberghi italiani non sono pieni come vorrei, in alcuni casi sono addirittura vuoti, colpa delle recensioni negative truccate secondo Federalberghi, o almeno in parte anche, che se la prende di nuovo con TripAdvisor, il sito più grande al mondo, il paradiso di tutti i navigatori, di tutti i viaggiatori che possono scoprire davvero cose dettagliatissime su dove andare, come andare, si possono scegliere le località di vacanza, e questa di Federalberghi è sicuramente una polemica di retroguardia, perché nessuno fermerà TripAdvisor. Advisor, bisogna semmai trovare il modo di conviverci. Perché Federalberghi non ha fatto lei una piattaforma in Italia, il luogo nel quale c'è la metà del patrimonio monumentale al mondo? Perché Federalberghi non promuove una piattaforma informatica per gestire per esempio le recensioni o le notizie sugli alberghi in Italia? Potrebbe farlo, se non lo facciamo in Italia, diavolo, chi dovrebbe farlo? Per Zaia i problemi derivano anche dagli immigrati che vengono ospitati negli alberghi. Innanzitutto il prefetto rappresenta il governo, se l'idea del governo è quella di dire visto che avete avuto la crisi vi diamo un po' di immigrati a 40 euro al giorno, direi che così non si risolve una crisi di settore. Nella regione che è la più grande industria del turismo d'Italia, con 70 milioni di presenze e 17 miliardi di fatturato, e vorrei proprio vedere quali sono questi albergatori che hanno avuto pochi magari avventori sulle Dolomiti o in spiaggia ed oggi chiedono di avere gli immigrati. Andateli a trovare, vediamo se li trovate. P-U-R-I-S-T-A, som turista, prese takto ma, som jak bandaliro, ďalšie mesto, ja som turista. Stop alle polemiche, io come italiano sono orgoglioso del fatto che l'ONU abbia fatto i complimenti all'Italia per come ha gestito con Mare Nostrum il traffico di immigrati nel canale di Sicilia. Sono state salvate tantissime persone, ci sono state anche tante, troppe vittime, però ripeto, i complimenti dell'ONU per come ci siamo comportati a me fanno piacere, sono orgoglioso di questo. È bello vivere in un paese che ha e fa questo tipo di solidarietà. Certo, poi non è che possiamo chiudere, e non voglio chiudere gli occhi di fronte ai problemi che ci sono. L'ONU stesso che dice l'Italia non sia lasciata sola. A questo punto anche l'ONU si aggiunge al grido di dolore che invoca l'Europa. Il ministro Pinotti. È vero, Frontex non può tu cur sostituire Mare Nostrum, perché Frontex è nato come una missione, diciamo, di controllo dei confini. Mare Nostrum nasce invece nel momento in cui esiste una situazione umanitaria terribile, con migliaia di persone che fuggono da situazioni di guerra e di violenza, e su questo quindi i numeri che voi conoscete, 113.000 sono stati i migranti soccorsi dalla nostra Marina, che ha fatto un'azione meritevole e quotidiana. Allora sentiamo anche Giarrusso, l'onorevole Giarrusso del Movimento 5 Stelle, che riapre questa discussione su cosa si va a fare in Iraq, cosa è l'ISIS. Cerchiamo di capire. Io ho dato atto al Movimento 5 Stelle di essere a livello politico, sui giornali ci sono molte analisi, però tra i politici c'è un grande conformismo. In questo momento tutti si nascondono dietro il fatto, giustamente, la paura dell'ISIS, la paura dei massacri, diamo le armi ai curdi, bisogna fermare il massacro, però cerchiamo anche di capire cosa succede in Iraq. Giarrusso. Scusate, l'ISIS mi pare che sia ben armata e ben finanziata, lo vogliamo capire, lo vogliamo dire chi è che la finanzia? No! Lo vogliamo capire che sono i paesi del Golfo? Ma non che è sono i paesi, che è il paese dove volete andare a fare i mondiali di calcio, il Qatar, il principale finanziatore dell'ISIS? Ma non è che ci sono i sauditi dietro, i principali alleati degli americani. Ma non è quello il lo punto. Vogliamo dire o no? O perché, ci sono interessi? Ah, non è quello il punto. Il punto è di Battista o chi arma l'ISIS? Quando fuori flexi Superman. Senza fare love non si può stare. Oh baby. Beach on the beach, femmine e uomini vanno a caccia. Gli occhi neri e gli occhi blu. Quante signorine very nice. E questa sera l'ombrellone di Beach on the Beach lo andiamo a piantare davanti casa di Federico Moccia. Buonasera. Buonasera, come va? Bene, o davanti casa o davanti ai luoghi di vacanza, non so dove ti trovi. Esatto, in Trentino. In vacanza. Siamo venuti a raggiungerti perché anche Venezia ha deciso di dire addio ai lucchetti e c'è una campagna per liberarsi dei lucchetti. Si torna a dire che sono cose che deturpano i monumenti e sviliscono anche i movimenti. Sei dispiaciuto per questa cosa? No, a me dispiace che ci siano stati, scusate, sempre dei problemi legati a questi lucchetti dell'amore, nel senso che secondo me la soluzione, oggi ne parlavo perché naturalmente c'erano state diverse richieste di curiosità su questa versione portata avanti rispetto a Unlock Your Love e questa manifestazione per abolire lucchetti, secondo me andava trovato nelle città che in qualche modo hanno sposato inevitabilmente con le persone che decidono di mettere i lucchetti un luogo deputato affinché questa accada, perché io credo che già è stato fatto diverse volte questo tentativo di rimuoverli. Sì, e poi rispuntano da altre parti. Esatto, esattamente come funghi. Perché non si può mettere a freno il sogno dell'amore, insomma, è ovvio, questo diciamo. Una volta che è dilagata questa cosa, come fai a fermarla? Esatto, io mi dispiace se poi ci sono delle persone che giustamente nei confronti di alcuni ponti importanti o quelle che possono essere Ponte Milvio o Venezia, sì, assolutamente. E quindi secondo me dovrebbe essere il comune, in una persona che sappia scegliere con intelligenza, a rendere più interessante magari una zona poco conosciuta e a scegliere un luogo deputato che diventa ufficiale da tutti i punti di vista, anche con un piccolo banchetto proprio del comune che venda i lucchetti, in maniera che non solo c'è... Tu dici, si potrebbe fare anche proprio un piccolo business comunale, che di questi tempi butta via. Esatto, io ho calcolato che essendo stati messi solo il primo anno 6.000 lucchetti a Ponte Milvio a Roma, perché tanti erano stati i conteggi fatti, sono, se uno lo vende a un euro sono 6.000 euro. Ora, secondo me 6.000 euro per tenere poi pulite invece i dintorni di quel posto che diventa il luogo deputato dell'amore sarebbe utilissimo, invece di avere questi lucchetti messi qua e là a seconda di come gli gira, a seconda di come capita, e soprattutto che non possono essere controllati e in qualche modo limitati, no? Ma ecco, io oggi tra l'altro leggevo un po' in giro quella, questa cosa nasce in Francia o nasce a Firenze? Questa cosa io non la conoscevo a Firenze, la conoscevo perché quando facevo il militare si metteva il lucchetto quando Bravo, si finiva. Quando si finiva e si buttava via la chiave. Esatto, no, si chiudeva il lucchetto e basta, perché finalmente se ne poteva più ed era il lucchetto dell'armadietto o dello zaino per conservare gli elmetti, no? Sì. Tutto il materiale che ti veniva dato, quindi era un momento liberatorio. Io ho cercato di trovare una soluzione diversa nel libro Ho voglia di te e ho raccontato questa leggenda che non esisteva allora a Roma, del Ponte Milvio, del terzo lampione, che diventava quasi una sfida che la protagonista femminile faceva fare al suo corteggiatore, e lui metteva questo lucchetto perché diceva di non temere nulla e di affrontare questa possibilità di durare per sempre con lei. Da qui è nato poi il film, naturalmente vedendo le immagini Scamarcio e Laura Gatti che facevano, è partito tutto, scena, certo. È partito tutto. Poi ho saputo che c'era anche, sempre per legata però al militare, un qualcosa a Firenze, ma anche in Cina addirittura. Quindi diciamo che il lucchetto ha avuto sicuramente, inevitabilmente... Più, diciamo che non c'è un monopolio più. Un monopolio iniziale, è una idea che è venuta a tanti. Per amore, se nasce per amore, il monopolio è mio. Ecco, vabbè, questo sicuramente. Se la scelta viene fatta per amore... Se il lucchetto è per la bicicletta o per il motorino, è di tutti. Se no, è di Moccia. Senti, un'altra cosa, adesso si discute un po' in questi giorni sui giornali, in televisione, ci sono dei filmati, delle cose sull'esuberanza dei giovani nei luoghi di vacanza, sono successe delle scene, qualcuno parla di degrado a Gallipoli, a Mestre. Intanto ti voglio chiedere, ma secondo te i giovani di oggi sono più o meno esuberanti, anche in senso sessuale, rispetto a come erano i loro genitori 20 o 30 anni fa? Parlo dei quarantenni, dei cinquantenni o i sessantenni di adesso? Allora, secondo me facciamo una distinzione tra educazione sessuale e educazione civile. Secondo me sono più maleducati da un punto di vista civile e ugualmente educati da un punto di vista sessuale. Cioè, io credo che i giovani purtroppo inevitabilmente si rifanno a quelli che sono degli esempi. Sicuramente noi non siamo stati dei buoni esempi, né i nostri politici sono stati dei buoni esempi. Quindi un piccolo, diciamo, un imbarbarimento ce lo vedi anche tu, un po' non dico imbarbarimento, forse è troppo, però hai detto nel senso di educazione. Di educazione. Perché non ti faccio due casi, no? Allora, a Mestre alle 6 di pomeriggio due ragazzi sono stati sorpresi mentre volevano fare sesso, stavano facendo alle 6 di pomeriggio a Mestre, erano un po' alticci, hanno provato a fermarli ma loro volevano andare avanti. Questa è una situazione nella quale si è oltrepassato il limite, secondo te? Questo sicuramente si è oltrepassato il limite, perché nello stesso momento che vieni beccato da qualcun altro vuol dire che non hai scelto il luogo adatto. Il luogo giusto, certo. Quindi hai oltrepassato senz'altro il limite del suolo pubblico e del comune pudore. Del pudore, della decenza. Invece, per esempio, a cosa che a me non ha convinto per niente, a Gallipoli all'alba sono stati ripresi da un telefonino due ragazzi che stavano facendo sesso. Era l'alba e dalle riprese si vedeva che attorno a loro in spiaggia non c'era nessuno. Ora io dico, se non puoi fare sesso all'alba d'estate a Gallipoli con tua fidanzata in spiaggia alle 6 del mattino, quando lo devi fare? In questo caso, secondo me, ha mancato la persona che col telefonino si poteva fare i fatti suoi, esattamente, e lasciare giustamente amoreggiare all'alba. Felici di essere rincuorati su questo da Federico Moccia, perché vabbè, io credo che ci siano delle regole, no? Che sono quelle che naturalmente possiamo concedere nel non essere maleducati nei confronti degli altri. Capisco che le espressioni, i momenti e la bellezza di alcune ribellioni rispetto a quello che dovrebbe essere l'usanza comune è lecita soprattutto in amore, però bisogna sempre avere rispetto degli altri. Grazie Federico, grazie Federico Moccia, buona serata e buona estate. 800 24 00 24. Tra un attimo ci risentiamo dopo la borsa e poi vi rifacciamo sentire, facciamo sentire per un secondo velocissimo, dovete dirci in che lingua è questa canzone. Turista, turista, turista, turista, turista, T-U-R-I-S-T-A, son turista, prese takto ma sunek bandaliro, giace mesto da. In che lingua è il titolo di questa canzone? Si vincono anche questa sera i biglietti per le mostre a Roma Andy Warhol e a Varese, Villa Panza, il FAI. A tra poco. Parlare con il mio sole, scoprire il mondo che c'è, niente che non si possa fare. Si può fare. Si può fare. L'attualità, anche d'estate. Allora, stasera siamo veramente buoni. Ci dovete dire in che lingua è cantata questa canzone e anche un pezzettino del testo. Se riconoscete la lingua, saprete anche. Noi vogliamo dare il nostro contributo così alla cultura e al turismo e a chi conosce le lingue. Vai, sentiamo. Turista, turista, turista, turista, turista, P-U-R-I-S-T-A, son turista, prese takto ma sunek bandaliro, giace mesto da. Turista, turista, turista, turista, turista, P-U-R-I-S-T-A, son turista. Oh, chi indovina in che lingua è cantata questa canzone in cui abbiamo aperto stasera per parlare di turismo vince anche questa sera i biglietti per la mostra Andy Warhol a Roma o l'origine delle sensazioni Villa Panza il FAI di Varese. Andiamo con Antonio che ci chiama da Modena. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera Maurizi. Eccoci qua. Allora, parlo io o mi fa una domanda? No, nel senso, io chiamo... No, io no, parla lei, nessuna domanda. io dirigo gli ascoltatori chiamano e dicono quello che vuole. Lei dirige i due musei della Ferrari? No, perché siccome ho parlato lungamente con i vostri operatori, i due musei della Ferrari, quello di Maranello e quello di Modena, dedicato a Enzo Ferrari. Sì. E quindi posso... essere testimone di come in realtà, sì, al di là dei pessimismi che si sono sentiti nelle telefonate precedenti, nel momento in cui si dà a chi viene e che spende quindi denaro e tempo, perché se uno decide di andare a vedere un museo mette anche del suo tempo, certo, quello che si aspetta ha una soddisfazione grandissima. Noi abbiamo un successo, abbiamo aumentato di 100.000 i visitatori lo scorso anno a Maranello, proprio perché interpretiamo costantemente le richieste delle persone. Per esempio adesso abbiamo creato una navetta che gira tutto il giorno dal museo di Maranello a quello di Modena, che è dedicato a Enzo Ferrari, quindi tutta la storia della Ferrari, sì, che passa da un caseificio a una cetaia a al museo dei Salumi, tutto incluso in un solo biglietto, e la gente è entusiasta, certo, abbiamo questo riscontro. Quindi questo significa che al di là delle cose che lei giustamente diceva, continuiamo, sì, a sentire le stesse cose, basta fare delle cose. È proprio questo, guardi Antonio, è proprio questo che lei, sì sì sì, bisogna mettersi nei panni di quello che viene, dici cosa vorrei io, questo, bene, glielo fai, è felice. Però è questo che manca, capito, in Italia a livello più generale forse, perché lo fate voi benissimo, Museo della Ferrari, è quello che ci diceva un ascoltatore prima raccontando di un'esperienza che aveva fatto, non mi ricordo più in che paese, credo in America, che con il biglietto del museo avevano incluso tutto un giro di cose e che solo il museo costava di più di quello che aveva speso lui, quindi c'era un'offerta reale, ed è quello che mi sta raccontando lei di quello che fate voi a Modena, cioè offrire realmente un'esperienza, qualche cosa. Bravi. Esattamente questo, perché i turisti decidono, cioè, oggi questa giornata a cosa la dedico? A questo, quindi mettono tempo, denaro, eccetera. Se sono ricompensati da un'attenzione, sono felici, lo dicono in giro, e questo si riverbera positivamente su altri che vengono, su amici che lo... Quindi il meccanismo, perché noi continuiamo, siamo un paese, il paese degli auspici, delle speranze. Guardi delle Antonio, dico io una cosa, fare. Voi che lo fate, voi che siete un museo privato, ovviamente. Adesso mi tirerò le critiche addosso di quelli che difendono la cultura pubblica, che sono d'accordo, bellissima la cultura pubblica, però perché lo fate voi che siete un museo privato e 100.000 musei pubblici questa cosa non la fanno? Questo credo che possa essere un problema. Comunque Antonio, complimenti, 100.000 visitatori. Beh, grazie, ma io non volevo prendere i complimenti, sì. Voglio, per esempio adesso con la biblioteca Estense che sta, sì, riaprendo, faremo presso di loro una mostra, prendono i testi storici che trattano di tecnologia e faranno una mostra sulla tecnologia, a partire dalle tecnologie antiche fino al vapore, ai primi motori a scoppio, eccetera, per fare in abbinamento quello che noi abbiamo a Modena del Museo dei Motori Ferrari. Quindi si unisce il pubblico al privato e si crea una sinergia che diventa molto interessante. Quindi noi ne parleremo sicuramente anche nell'edizione weekend del programma Si può fare, che riparte tra due weekend, quando lasceremo questo orario ad altri, e perché queste storie che dimostrano che si può fare ci piacciono molto. Grazie Antonio. Bene Maurizio, io sono a vostra disposizione e venite a Maranello, a Modena, a vedere i nostri musei, così a quel punto vedrete che non ho raccontato delle storie. Assolutamente, grazie, buona serata, buona serata. Arrivederci. Del resto in Emilia Romagna una ne fanno e cento ne pensa, non stanno mai fermi. A Giuseppe dalla provincia di Chieti, buonasera. Buonasera Maurizio. Dunque, io le devo fare i miei complimenti per il modo di come conduce la trasmissione, di come difende e valorizza i clandestini, i musulmani ed altri. Guardi, lei ha un modo perfetto da radical chic. È un'offesa o un complimento? È un'offesa o un complimento? No, penso che per lei sia un complimento. No, per lei è un'offesa, scusi Antonio, no. Giuseppe, non faccia il furbo. Per lei questa è un'offesa? Un'offesa? Non ho capito, che significa un'offesa? Lei sta dicendo che io ho il modo di fare da radical chic e le ho chiesto se è un complimento o un'offesa per lei. Però mi sembra di capire una certa ironia delle sue parole. Allora io dico, le rifaccio la domanda. Perché io non so cosa vuol dire radical chic, cosa vuol dire? Me lo dica lei. Lei, no? No, è lei che l'ha usata questa espressione, io che ne so, io non la uso questa espressione, non so che vuol dire. Dunque, ieri sera lei ha richiuso il telefono in faccia a una signora che ha detto la parola clandestini. Ok, io le ricordo che chi era questa ascoltatrice, scusi? Era una signora. Non era amica Lores che parlava di clandestini. No, perché lei non ha chiuso il telefono, abbiamo parlato e lei ha dato l'invasata alla signora Regina Catrambone, che è l'animatrice di MOAS, Migrant Offshore Aid Station, cioè la nave privata che va a aiutare gli immigrati. Io le ho detto, perché deve dire che quella lì è un'invasata? Semplicemente io questo. Dico che posso dire? Sì. Mi richiude il telefono pure a me? Le ricordo che lei prende, sta una radio che prende i contributi pubblici, ok? È questo cosa vuol dire? E quindi lei, se uno la pensa diversamente, lo deve far parlare. Ma io l'ho fatta parlare, guardi, faccio parlare anche lei, Giuseppe. Lei ha richiuso il telefono in faccia. Ogni tanto quando c'è un ascoltatore che non, guardi, che va per la sua strada, dopo qualche minuto si fa parlare qualcun altro, Giuseppe. Io pensavo che ci avevate il massimo parente, invece mi sa che lei è alla pari di parente. Di chi, scusi? Di parente, no, quelli che sostituisce. Lei mi sa che è alla pari di quello là. Comunque io volevo dire... Sì. Che, visto che lei, dica qualcosa di interessante però adesso. Sì, ma lo dico interessante, mica solo lei può dire le cose interessanti, no? Ci sta pure qualche altro. Allora, io le dico questo, lei poco fa ha detto di essere orgoglioso assieme alla Pinotti che Mare Nostrum ha salvato 115.000 clandestini. Lo posso chiamare clandestini? Pronto? Sì. Sì, lo posso chiamare clandestino. Ma faccia come vuole, Giuseppe. Sì. Ma io faccio la domanda che faccio è questa qui. Quando arriveremo a 1,5 milioni, 2 milioni di clandestini, lei cosa fa? Quando si ritroverà sotto casa? Io le dico che ho due figli disoccupati, ok? E ho due genitori che prendono la minima, Cioè quando il telegiornale fa vedere questi clandestini, cambiamo canale, perché se si fa un referendum va bene Giuseppe, ognuno cambia canale quando crede, lei è libero di cambiare canale quando vede i clandestini. Cosa dobbiamo fare? Io ho detto che sono orgoglioso perché che l'ONU dia questo riconoscimento all'Italia, ho detto stop alle polemiche, sono consapevole anch'io che non va bene la situazione per quanto riguarda gli immigrati in Italia e nel mondo, che ci sono dei problemi per gli italiani sicuramente, ho detto stop alle polemiche, io sono orgoglioso del fatto che l'Italia salva delle vite umane e l'ONU ce lo riconosca, questo ho detto e ci credo, come no? Non ammetto una cosa, cioè io ho mia moglie che è stata 13 anni in Canada, sì. 13 anni, non ha potuto prendere la cittadinanza, sa perché? Ha fatto due volte l'esame, se non me ne sarei da 30 anni fa dall'esame, ha studiato pure lì, ha fatto l'esame due volte, l'hanno bocciato, stava a Calgary. Allora io vi dico questo, io ho avuto mio padre in Germania, mio nonno in Svizzera, mio zio in Francia, ho parenti in Australia, quello che succede in Italia. Quindi io dico questo, che il buonismo che lui fa assieme ai suoi amici radical chic ci porterà alla distruzione, alla rivoluzione, okay? Va bene Giuseppe, se lei è convinto di questo vada avanti così, cosa le devo dire? Lei c'ha parenti in tutto il mondo, ha detto, no? Quindi cosa vuol dire? Quale buonismo, scusi? Cioè lei preferirebbe che morissero tutti nel canale di Sicilia? Non ho capito. Io ho detto questo, non ho detto che apriamo le porte a tutti, è una cosa diversa. Si può parlare di queste cose separandole, cioè le persone che non devono morire in mezzo al mare, e l'Italia fa la sua parte e basta, e poi gestire i flussi e gli immigrati, cercare di capire il Mare Nostrum, Frontex, l'Europa, l'ONU, tutto quello che vogliamo, ma sono due cose diverse. L'Europa questo non ha mai avallato Mare Nostrum, lei lo sa, no? Non l'ha mai avallato. Vabbè, perché Giuseppe, li fa venire tutti in Italia. Sì, sì. Vabbè, Giuseppe, che dobbiamo fare? Non è che dobbiamo andare d'accordo io e lei. Va bene anche così. No, ma lei continua a fare il radical chic, cosa le devo dire? Guardi, mi dispiace per lei, fino a venerdì continua a fare il radical chic. Poi perfetto, dopo arriverà un altro a fare perfetto il radical cock, non lo so che cosa. No, arriverà quell'altro comunista peggio sì di lei, no. Va bene, continui così. Grazie Giuseppe, cos'è che mi volete dire dalla regia? Pausa, dobbiamo fare una pausa. Torniamo tra un attimo, risentiamo la musica? Un secondo? Turista, turista, turista, turista, turista, P-U-R-I-S-T-A, son turista, prese tacto ma, sono il bandaliro. Possibile che non c'è nessuno all'ascolto che conosce la lingua in cui è cantata questa canzone? Son turista, prese tacto ma, se bevi o a te dirmi qua, to vam se posvedi tam a senne. Si può fare l'attualità anche d'estate. Salutiamo, anzi non lo salutiamo perché è caduta la linea, tra poco lo saluteremo, il direttore generale di Federalberghi, per parlare con lui, e lo avevamo anche introdotto degnamente con questa hotel room service, per parlare con lui della polemica contro TripAdvisor. Ce l'abbiamo? Sì, buonasera Alessandro Nucara. Buonasera a tutti. Direttore generale di Federalberghi, io preavviso che all'inizio della puntata ho detto che secondo me questa battaglia che fate contro TripAdvisor, o comunque questa polemica, adesso ci dirà in che cosa consiste, è un po' di, mi sembra, di retroguardia, perché fare una battaglia contro un gigante come TripAdvisor mi sembra difficile da sostenere, e anche per un'altra ragione che le dirò dopo. Però intanto mi dica lei che cosa, a che punto sta la polemica, che non è allora, nuova. Allora, non è né una battaglia né una polemica, soprattutto non è contro, è a favore. È a favore di un mercato più trasparente. Quindi Federalberghi non dice siamo contro TripAdvisor, giammai. Noi siamo a favore del fatto che i turisti, i clienti possano esprimere liberamente il proprio pensiero, perché sono la principale ricchezza dell'impresa turistica. Quindi l'albergatore vuole sentire cosa ha da dire il cliente. Il problema qual è? È che oltre al diritto di chi parla, c'è il diritto di chi ascolta, quindi il diritto ad avere un'informazione reale, un'informazione veritiera, e diritto di chi viene commentato a non essere diffamato. Purtroppo oggi il sistema di TripAdvisor, ma non c'è solo quello, sì, il sistema di TripAdvisor presenta delle grosse falle, come si è scherzosamente dimostrato nel caso odierno, ma il caso odierno è stato una burla orchestrata utilizzando un albergo chiuso. Per gli ascoltatori che non lo sanno, ecco, diciamo, sì, diciamolo, che TripAdvisor continuava ad accettare senza il minimo controllo recensioni su un albergo che da 8 anni non funzionava più. e vengono spesso postate recensioni su imprese inesistenti. Ma ripeto, qui siamo nel campo della burla. Accade invece, e accade frequentemente, che vengono postate, grazie all'anonimato, ed è questo il primo problema, chiunque, anche se non è stato in quell'albergo, se non ha mangiato in quel ristorante, se non ha soggiornato in quella località, è libero di inventarsi un nickname fasullo, prendere un indirizzo di posta elettronica gratuitamente su internet e andare lì a raccontarne di cotte, di crude. Quindi il fatto che non ci sia un controllo consente di fare di tutto. Attualmente il listino prezzi, perché gli albergatori ricevono ogni mattina offerte via mail, il listino prezzi è che 15 recensioni costano 300 euro, quindi se vuoi avere 15 recensioni positive, 300 euro. Se compri da me il vino piuttosto che la lenzuola, ci metto dentro nel pacco anche... Certo, ma però guardi che allora vedi, è proprio questo il punto, perché non c'è motivazione nel fare una recensione falsa se se non c'è il denaro. Però il problema è che sono i ristoratori, gli albergatori che accettano questa cosa qua e non dovrebbero accettarla. No, guardi, io vengo lì a venderti il vino e ti dico guarda, ti faccio la fornitura di vino e ti do per lo stesso prezzo anche 100 recensioni, l'ha appena detto lei, positive su TripAdvisor. Il ristoratore dovrebbe dire no, bello mio, perché tu così stai truccando il gioco, e invece il ristoratore cosa fa? Accetta, perché pensa di guadagnarci qualche cosa. È un errore, però. Noi diciamo che sbaglia, e noi diciamo che ci vuole un sistema che impedisca ai furbi di prosperare, e se i furbi di mestiere fanno errore è giusto che anche loro facciano il passo indietro, perché è nell'interesse del mercato, di chi fa l'imprenditore correttamente, sono la stragrande maggioranza, dei consumatori che vogliono informazione onesta e veritiera. Sì, però allora, certo, la seguo, però allora dovrebbe essere conseguente Federalberghi, credo, o altre associazioni, non so, a dire... Allora, il ristorante, l'albergo che ha una percentuale tot o un numero tot di recensioni false esce dall'associazione, perché se l'è comprata lui. Lei in grado di misurare, oggi è questo il problema, grazie alle maglie larghe del sistema, nessuno è in grado di sapere se quelle recensioni sono false o sono vere. Io le dico che l'anno scorso gli albergatori di Venezia, tutti quanti insieme, hanno respinto, rifiutato un premio che TripAdvisor voleva assegnare alla città, che hanno detto ci dispiace tanto, siete carini, vi ringraziamo, ma non ci sentiamo tutelati da questo sistema. Secondo voi cosa si potrebbe fare? È molto semplice, ci sono dei suggerimenti, io li chiamo così, sono suggerimenti che noi, e non solo noi, perché è un tema che riguarda gli albergatori di tutta Europa e di tutto il mondo, diamo a TripAdvisor da anni, ma non si capisce, oppure si capisce finché è troppo bene, perché TripAdvisor dice di no. Prima questione, anonimato. Deve poter esprimere recensioni solo chi si qualifica ufficialmente con nome e cognome, con un controllo. Seconda questione, effettivo soggiorno. Deve poter esprimere recensioni solo chi effettivamente ha dormito o ha mangiato in quel posto. E basta poco, eh? Oggi col telefonino, così come postiamo la foto della pizza o la foto della fidanzata, si può postare anche la foto della ricevuta fiscale o dello scontrino, o anche la foto fatta nel negozio. Non si capisce bene come funziona l'algoritmo di TripAdvisor. TripAdvisor dice no, non possiamo limitare così tanto il cliente, non possiamo chiedere al cliente di dimostrare che c'è stato. Diamo un punto in più al cliente che dimostra che c'è stato. Cioè, questo sarebbero tanti piccoli accorgimenti che consentirebbero di porre fine a una serie di abusi che francamente non fanno bene neanche a TripAdvisor. Noi comprendiamo bene che TripAdvisor guadagna anche grazie ai click. Sì. Quindi se limita in qualche modo il numero di persone che accedono alla piattaforma, perché rende un po' più oneroso dal punto di vista burocratico, procedurale, postare, si rimette qualcosa in guadagno. Però noi crediamo che a lungo andare ci rimetterà in credibilità. Un istituto americano prestigioso di ricerca ha stimato che circa il 14% delle recensioni esistenti su TripAdvisor siano fasulle. Siccome TripAdvisor dice di averne più di 100 milioni in pancia, possiamo, di buon peso, almeno le moltiplicazioni che sappiamo fare, le divisioni, dire che in questo momento TripAdvisor ha 15 milioni di recensioni fasulle, non è poca cosa. Però bisognerebbe stroncare questo fenomeno anche dal lato degli operatori, perché accettare questa cosa dovreste fare una campagna, per esempio pubblicitaria. Noi assieme all'Unione Nazionale dei Consumatori, non è una iniziativa Federalberghi, l'Unione Nazionale dei Consumatori si è rivolta all'antitrust, Federalberghi separatamente, in momenti diversi, ma tutte e due ci siamo rivolti all'antitrust, ed è evidente che il fatto che sia i consumatori che le imprese chiedono la stessa cosa, cioè chiedono trasparenza, è evidente che con un mercato più trasparente sono poi alla fine i cittadini tutti, imprese e turisti che ci guadagnano. È evidente che questa è la strada da battere, è evidente che se non si riesce con la famosa moral suasion, che noi da anni che lo andiamo dicendo, l'unica strada che rimane a disposizione di fronte ai colossi mondiali, perché giustamente ricordava lei, questi sono colossi. Fare una piattaforma, fare una piattaforma italiana, no? Potrebbe essere un'idea anche questa, perché noi le piattaforme italiane ci sono, guardi, ci sono anche le piattaforme internazionali, io non so se possiamo fare il nome di una piattaforma. Secondo me sì, assolutamente. Allora, booking.com, che ha tanti difetti per altri aspetti, anche diventi per altri aspetti, accetta solo le recensioni di assoggiornato, cioè il giorno dopo in cui ho dormito in albergo mi arriva una mail che, visto che tu ieri hai dormito all'hotel Nucara, all'hotel Radio 24, adesso mi dici come sei stato, e a quel punto io posso anche esprimere un giudizio ingeneroso, sbagliato per migliaia di motivi, ma nessuno potrà negare il presupposto principale, cioè io quella ce l'ho, ci sono stato veramente, lo so di cosa sto parlando. Invece su TripAdvisor passa di tutti, questo burlone di tutto, questo burlone di ieri ha dichiarato, se posso raccontare un attimo la storia, questo albergo quando è stato chiuso è di proprietà dello Stato greco, lo Stato greco aveva in mente di farci un ufficio commerciale, poi non l'ha fatto, sta lì con i lucchetti alle porte chiuso da 8 anni. Questo burlone ha dichiarato di aver incontrato le mummie dei funzionari dell'ambasciata greca e via del passato, ha dichiarato che si dorme benissimo perché non c'è nessun cliente. Ma questa però, scusi Lucara, questa l'avete fatta voi per sollevare il caso? Ma no, l'anno scorso un turista adesso vero, dico scherzando però l'ha fatta un burlone, però diciamo è un burlone che si occupa di tutela dei diritti civici e che noi conosciamo. L'anno scorso un turista vero, o comunque un signore americano, aveva detto che era stato lì e aveva criticato l'ascensore. Un giornalista di Roma il mese scorso si è divertito a raccontare di un ristorante che serve frittata di uovo di pollo. Un ristoratore inglese, esasperato, non ne poteva più di recensioni false, ha creato un ristorante, l'ha creato dal nulla, l'ha messo su TripAdvisor e ha raccontato la favola di questo ristorante bellissimo in cui lei ordinava... No, ma io ho capito tutto, Lucano, però sì... Il cameriere si buttava nel fiume per andare a pescare il pesce che va lei bene, va bene, allora, certo. Ho capito, ci sta tutto, lei ha ragione, però io ripeto, credo che tutto sta nella motivazione, cioè che motivazione hanno le persone a fare recensioni false? Solo quella economica, altrimenti questa cosa non, in questa proporzione grande non starebbe in piedi. Quindi vuol dire che d'altra parte abbiamo degli operatori che comprano queste recensioni, bisogna stroncare questa compravendita facendo per esempio reato, che ne so, di recensione falsa, di compravendita di recensione falsa, se ti becco ti faccio chiudere, allora vediamo se le cose cambiano, perché altrimenti non lo so come va a finire, che ne pensa? Cara? Se ti becco a dichiarare il falso, chiunque tu sia, devi rispondere di ciò che hai dichiarato, e questo deve valere in assoluto. Purtroppo, e qui è una... Dobbiamo chiudere. La ringrazio per l'attenzione, ringrazio gli ascoltatori. Grazie, e quando vuole siamo sempre con voi per parlarne ancora. Va bene, grazie. Buone vacanze italiane a tutti e a chi non le ha fatte ancora. Si può fare, si può fare, si può tenere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare l'attualità anche d'estate. Decisivo. Ebbene, sia i palestinesi di Abu Mazen sia quelli di Hamas hanno detto di sì, poi all'ultimissimo momento, praticamente 5 minuti prima delle 18, l'ora in cui doveva entrare in vigore questa tregua, è arrivato anche il sì di Israele. Insomma, dopo tante notizie di guerra, una notizia se non di pace almeno di tregua, e le immagini che vedete della gente che finalmente si può pensare, si può immaginare senza il rischio, l'incubo di azioni, di raid aerei, può pacificamente mettersi in piazza. Questo e è Enrico Mentana, il preambolo dei titoli del telegiornale La 7, che commenta l'inizio della tregua in vigore tra Israele e Gaza con le immagini in diretta dalla striscia. Fabio da Milano, buonasera. Fabio? Non c'è, è caduto Fabio, allora facciamo Giancarlo da Modena. Vabbè. Buonasera. Buonasera. Allora, premessa innanzitutto, sì, al contrario dell'ascoltatore, dell'ultimo ascoltatore, concordo pienamente nel, sul suo commento di essere onorati dalla affermazione dell'ONU relativa all'Italia. Siamo tutti onorati del fatto e credo che sia una giusta valorizzazione di quello che è stato fatto. Non concordo invece con lei sulla affermazione relativa al Movimento 5 Stelle e relativamente a quello che si pensa degli ISIS, perché mi sembra che siano delle affermazioni estremamente utopistiche, idealistiche, e tutto mi aspetto da politici tranne che questo, perché ritengo però che a quale, scusi se la interrompo, poi faccio così, a quale aspetto delle frasi, perché io per esempio stasera ho fatto sentire Gian Russo che parlava dei finanziamenti all'ISIS che arrivano dal Qatar, questo mi sembra un tema molto concreto, e invitava a fare attenzione. Sì, ma da un politico mi aspetto che non mi si citi e non si faccia polemica contro altri politici italiani perché si è deciso di andare a fare i mondiali in Qatar e non in Qatar, glielo diciamo come magari si nomina un paese, perché credo che sia veramente poco. E chi crede oggi alla favola dell'ONU che interviene, che va a risolvere i problemi? Però lei crede alla favola degli Stati Uniti che vanno a fare la guerra a quello che hanno armato 5 anni prima e così via? Quella favola lì ci crede? No, assolutamente. Il problema però lo dobbiamo affrontare, secondo me, seriamente. Il problema non lo posso risolvere in questo momento con l'ONU che va a discutere e a presenziare in questi stati. Sappiamo che laddove stanno facendo una pulizia etnica, sì, faccio fatica a fare intervenire l'ONU, lo sappiamo, e poi con tutti i veti che esistono nell'ONU, ma quanto mai riusciremo a questo realizzare veramente? Questo può darsi che lei abbia ragione. Allora, sì, su questo io credo che sia fondamentale che i politici veramente si affrontino e tirino fuori veramente delle proposte concrete, altrimenti parliamo tanto per parlare, facciamo la nostra politica, otteniamo qualche voto in più e tutti contenti. Ma alla fine non abbiamo portato a casa nulla. Vabbè, sì, c'è anche un livello disparate sicuramente, ma un po' in tutti i politici, sicuramente anche nel Movimento 5 Stelle. Io ho semplicemente detto che secondo me sono stati tra i pochi a bucare il muro dell'ipocrisia, perché tutti i politici a dire è giusto fermare il massacro, figuriamoci chi è che vuole che il massacro vada avanti, però già su come farlo le idee sono poche e confuse, e insomma cercare di aprire gli occhi sullo scenario per non ripetere gli errori del passato, la guerra fallimentare fatta in Iraq e in Afghanistan, dobbiamo dircelo, ricordiamocelo. Mi sembra che il Movimento 5 Stelle abbia avuto questa lucidità, questa forza, forse non è lucidità la parola più adatta, perché accompagnare a frasi di quel tipo ce ne sono altre più sul complotto, più deliranti, però almeno c'è qualcosa, si apre una discussione, altrimenti per il resto mi sembra ci sia un conformismo inutile, ecco questo. Comunque grazie anche a lei, andiamo con Lucia che chiama da Roma. Ciao, buonasera Lucia. Ciao. Pronto? Buonasera. Io volevo rispondere al quiz sulla canzone. Sì, secondo me è sardo. Non è sardo. No, guarda, ok, mannaggia. Vabbè. Perché pensavi veramente che fosse sardo? Sì. Ci poteva stare, in effetti, perché magari abbiamo detto lingua, però poteva essere sì, un gioco per scherzare, non era una lingua ma un dialetto. Invece credo che sia proprio una lingua. Redazione, io mi affido a voi, redazione, perché poi... Non ho un altro tentativo, vero? No, dobbiamo dare spazio agli altri ascoltatori, Lucia. Grazie comunque, grazie per aver partecipato. Andiamo con chi andiamo? Paolo da Milano, buonasera. Pronto? Pronto, Paolo. Sì, ciao, sono io, Maurizio. Eccoci. Oh, senti, intanto mi complimento per le tue idee, mi trovo molto, molto solidale con te. Vabbè, guarda, quello può essere anche che abbiamo idee diverse e va bene lo stesso, non è che... Però mi ci sono. Vabbè. Comunque, di là di quello, no, volevo intervenire sul consigliere comunale di Primo, regionale, che fosse... Di Palermo, sì. Allora, a me è sembrata una persona molto intollerante questa, cioè assolutamente. Poi cosa vuol dire la famiglia naturale? Cioè pieno zeppo di pregiudizi legati agli omosessuali, ai gay. Io non lo sono, però comunque ho molti amici che lo sono e mi sento di difenderli, perché è ora di finirla, è ora veramente di finirla. Ma poi dai, sta storia che è una malattia che nasce dove ci sono violenze nelle famiglie, io anch'io conosco come tutti delle persone gay e non mi sembra che abbiano avuto violenze in famiglia, ma stiamo scherzando. Lo so, però perché continuare con queste affermazioni? Per prendere qualche voto? Ma dove? Non lo so io. E poi ecco, adesso io ho un pregiudizio, lo voglio tirare fuori io, perché spesso le famiglie naturali si sente che cosa succede tutti i giorni, no? Adesso io non voglio generalizzare, però sta di fatto che nelle famiglie naturali c'è forse più marcio di molte coppie gay, è questo che mi sentivo di dire. Va bene, quindi, va bene. Forse il pregiudizio questa volta ce lo metto io. Vabbè, ci può stare, cioè ci può stare, nel senso ognuno ha i pregiudizi che crede. Io non credo nelle generalizzazioni, no, innanzitutto. Sì. Ovviamente è una provocazione la mia, però voglio dire, ci sono molte. Secondo me la Chiesa ha delle grosse responsabilità anche legate a questo. Ecco. Va bene, grazie Paolo. Sì. Grazie. Andiamo con Enrico che chiama da Roma. Buonasera. Ciao, buonasera. Ciao. Penso di aver scoperto la lingua della canzone. E quale sarebbe secondo te la lingua? Secondo me dovrebbe essere il polacco. Come avresti fatto a indovinarlo? Perché diciamo per forza di cose... C'è la fidanzata polacca? La moglie e i bambini si sono trasferiti a vivere in Polonia, quindi la frequento abbastanza e c'erano due parole chiave, non erano tanto facili, ma due parole che erano in guarda Enrico, mi dicono che ci sono molte somiglianze, ma che non è il polacco però. Ero convinto che fosse polacco. Mi dicono che ci sono delle somiglianze, fra l'altro il paese non è neanche confinante, credo, per cui stranamente non è il polacco. Adesso arriviamo in fondo a questa vicenda. Ma tua moglie sta in Polonia per lavoro? No, si è trasferita, viveva in Italia insieme a me con i bambini, è da un anno che si è trasferita di nuovo in Polonia. Sì, e quindi tu ogni tanto vai e comunque conosci... Vado una volta al mese, quindi per forza di cose mi piaceva imparare quella lingua, è difficile ma cerco di impararla. Turismo si dice in quel modo lì, turismo? No, ma quello diciamo è un rap, quindi è un pochino... poteva essere anche un po' in discussione, però in quella lingua turismo si dice, turista si dice così, e quindi questa è già un'indicazione. No, le due parole che mi hanno fatto dire che è polacco, dice nella canzone tac, che è il modo di dire sì in polacco, sì. E poi usa un verbo avere, verbo avere sarebbe, ma se dici che non è polacco sono curioso di sapere che cos'è. Allora. Ecco, resta con noi perché spero che tra un po' ci arriveremo con gli ascoltatori, grazie intanto Enrico, altrimenti poi lo diremo noi naturalmente. Andiamo con chi andiamo? Con David che chiama da Brescia. Ciao, ciao. Senti, io volevo intervenire in merito alla questione del turismo. Sì. Quest'anno ho avuto la fortuna di fare un bel viaggio in Giappone e ho notato palesi differenze visto che siamo praticamente dall'altra parte del mondo. Certo, quando sei in un paese dove l'organizzazione e l'efficienza dei servizi è così alta, subito viene da chiedersi come mai un paese bello come il nostro non possa, non dico forse arrivare a quei livelli, però perlomeno cercare di avvicinarsi o comunque prendere spunto da chi del turismo veramente ha fatto una fonte e una risorsa economica. Dacci una pillola, una perla dell'organizzazione turistica giapponese, così se qualcuno è all'ascolto. Certo, non parliamo del sistema ferroviario che è veramente ineccepibile, con treni ad alta velocità, Shinkansen a 400 all'ora, o collegamenti comunque giornalieri, più volte al giorno per le grandi città, quindi io con un unico biglietto che è il Japan Rail Pass sono riuscito a spostarmi in tutto il Giappone praticamente senza aver prenotato nessun biglietto, nessun treno, ma muovendomi a seconda delle mie esigenze. Cioè hai fatto un solo biglietto e ti sei spostato in tutto il Giappone sui treni? Esatto. Per quanti giorni? Per 14 giorni era la durata del biglietto. E quanto costa sto biglietto? Scusa se posso chiederti un occhio. 328 euro a testa. Cioè la persona, noi eravamo in due, quindi... Cioè 328 euro e poi tu prendi tutti i treni che vuoi per 15 giorni. Esatto, esatto, esattamente. Quindi si può prenotare il posto gratuitamente, perché ci sono le carrozze riservate per le persone che prenotano, mentre ci sono quelle libere, sì, per chi invece non ha prenotato. E questi treni sono spaziosissimi. Adesso mi aspetto una rettifica da parte di Trenitalia, un'informazione, qualcosa che dirà che ce l'abbiamo anche noi l'offerta. Sì, certo, poi non certo, si sa perché certo, ce l'hanno, ma non le sa nessuno. Evidentemente non sono così allettanti come quelle di cui ci stai parlando tu. Grazie mille. Davide, sì, volevi aggiungere un'altra perla giapponese? Ma no, un'altra perla. Vabbè, i bagni in generale, il sistema dei bagni pubblici è una cosa veramente incredibile, è una pulizia, tutti gratuiti, sempre disponibili e sempre in ogni luogo in cui ci si trova, quindi nessuna difficoltà. E in più vorrei aggiungere che il presidente di Federalberghi giustamente muove una critica nei confronti di TripAdvisor. La cosa che ho notato io in Giappone, poi magari è questione culturale, quindi non è molto utilizzato dal popolo giapponese, però ritengo che quando in un paese come il Giappone tu non abbia nessun dubbio sulla qualità del servizio di cui vai a usufruire, quindi ristorante, bar o hotel che sia, cioè non c'è neanche bisogno poi di scrivere una recensione positiva, perché fondamentalmente io quando mi sono spostato ho scelto su TripAdvisor i miei hotel, ma purtroppo le recensioni erano talmente poche e la maggior parte è scritta in giapponese e io non vabbè, in quel so caso leggere, erano inutili, sì. In quel caso, e quindi mi sono spostato però con la convinzione di sapere che avrei trovato comunque un posto con degli standard minimi qualitativi che sono la norma in Giappone. Quindi TripAdvisor è una macchina che può funzionare male, può funzionare bene quando le cose funzionano effettivamente bene, nel senso, quindi alcune critiche. Grazie Davide, grazie per il tuo racconto. Adesso invece ci vogliamo riconciliare con la politica, o quantomeno con un politico. Quando i bambini fanno c'è un topolino, mentre i bambini fanno c'è un cagnolino. Il sindaco di Sefro rinuncia all'indennità e riapre l'asilo, così hanno scritto alcuni giornali. E allora glielo chiediamo a lui, al sindaco, che è Giancarlo Temperilli. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Se è vero o se i giornali hanno esagerato, cioè l'asilo ha riaperto grazie al fatto che lei ha rinunciato al suo stipendio, alla sua indennità di questi tempi, un gesto abbastanza straordinario. Diciamo che l'asilo è riaperto anche per quello, non soltanto per quello, anche perché sono riuscito a convincere i paesani a riportare i bambini a Sefro, e nello stesso tempo anche grazie alla sensibilità della preside e l'assessore regionale, che hanno creduto nel momento in cui sono stato eletto di ridarmi la possibilità di riaprire l'asilo. E ovviamente per poter vincere la concorrenza, diciamo così, ho messo a disposizione il mio stipendio e questo ha aiutato, ovviamente, sì, è vero. Quindi, quanti abitanti fa? È un piccolo paese il vostro? Sì, è un piccolo paese ai piedi del Monte Pennino, 430 abitanti. Ecco, perché questa questione degli organi amministrativi, tra l'altro non c'era stata una legge che diceva che sotto un certo numero di abitanti non ci deve essere neanche il comune? Sì, questa legge c'è, è stata presentata, se ne discute da molto tempo, però il nostro comunità montana. È un comune antico, diciamo, che ancora è rimasto tale, come altri piccoli comuni qui dell'entroterra maceratese, ancora più piccoli dei nostri, però ancora sono rimasti tali, hanno la loro autonomia. È vero che in alcune zone montane ci sono, diciamo, piccoli villaggi, piccole agglomerate di case distanti da altri, quindi hanno le loro specificità, però è vero che fondersi, unirsi agli altri, l'unione fa la forza, non sarebbe il caso magari anche per voi un piccolo comune così unirvi ad altri per quanto riguarda la gestione, che ne so, di alcuni aspetti, i rifiuti piuttosto che l'energia elettrica, l'acqua? Sono d'accordo, in questo momento la legge ci impone di mettere insieme i servizi con gli altri piccoli, esatto, comuni, l'abbiamo già messi diversi, a fine anno dobbiamo mettere quasi tutti, poi stiamo portando avanti l'Unione Montana, dove è un insieme di comuni che vogliono fare un'economia di scala e essere più competitivi nei confronti anche di altri agglomerati più importanti tipo Macerata, Civitanova. Ovviamente l'Unione fa la forza, adesso siamo perfettamente comunque d'accordo. Comunque io le voglio fare anche i nostri complimenti. complimenti, perché tra il dire e il fare c'è di mezzo chi non fa, cioè, e lei invece ha fatto un gesto concreto, insomma, perché certamente fare il sindaco di un piccolo paese, è chiaro che lei lo farà part time qualche ora al giorno alla settimana, che non credo che un paese di 450 abitanti possa richiedere, quindi per lei è stato più semplice rinunciare, però ci sono altre situazioni. Abbiamo intervistato qualche giorno fa il sindaco di un altro paese, credo fosse Bergamo, la provincia Chiuduno, 5.000 abitanti, si era raddoppiato lo stipendio portandolo a 1.800 euro netti, è una scelta che alcuni avevano criticato e devo dire che insomma, e quindi complimenti intanto. Grazie, diciamo la cosa è stata facile perché è un paese dove ci sono nato e ancora ci abito, anche se ogni mattina devo fare centinaia di chilometri per raggiungere l'ufficio, però... Che lei dove lavora? Io lavoro a Macerata, ho uno studio di consulenza e faccio avanti e indietro ogni giorno, però ogni volta che rientro a casa stacco la spina. Immagino. Quindi insomma lei non ha problemi per mantenersi da questo punto di vista, perché fa, ha un lavoro regolare. E... Esatto. Quindi per lei è giusto, insomma, che qual è la soglia secondo lei sotto la quale è giusto, per esempio, che un sindaco possa farlo come fa lei anche senza stipendio? 1.000, 2.000, 5.000 abitanti? Che sia giusto non lo so, l'importante è che sia vero, che sia sincero e che abbia l'entusiasmo di fare il sindaco, perché è anche vero che molto spesso non tutti hanno la possibilità di avere uno stipendio, no, per poter portare avanti anche l'impegno da sindaco, cioè quando uno si dedica completamente... Tutto dipende però appunto dall'impegno, perché... Esatto, dall'impegno e della buona politica sostanzialmente. Diciamo, i soldi al di là dell'importo sono soldi buttati via quando il politico non fa bene. Nel momento in cui il politico, esatto, fa bene, i soldi sono ben spesi, indubbiamente. Quindi insomma per lei non c'è una soglia, 1.000? No, una soglia non c'è, perché dopo dipende anche chi è che fa il sindaco. Da casa a casa. Anche la soglia da 5.000, magari lui per mestiere fa l'industriale, è miliardario, potrebbe rinunciare anche ai 5.000. L'importante è che quando ci si impegna comunque. Va bene, grazie mille, buona serata Giancarlo Temperilli, sindaco di Sefro, provincia di Macerata. Grazie a voi veramente, buona serata. Sentirsi con papà senza santi da pregare, si può fare. Ed avere tanti soldi da poterseli rubare, si può fare. Si può fare, l'attualità, anche d'estate. Andiamo all'800 24 00 24 con Gabriele che ci chiama dalla provincia di Catania. Buonasera. Sì, buonasera. Complimenti per la trasmissione. Volevo parlare dell'argomento sulla moschea. Sono rimasto molto colpito, molto negativamente. Da cosa? Dal politico che ha sicuramente motivazioni di carattere sociale, mi immagino il discorso degli imam, dei come dire, cittadini di religione musulmana che magari organizzano degli atti violenti nel nostro paese, però io mi chiedo, dove c'è una moschea vuol dire che ci sono delle persone che hanno un sentimento religioso, che vogliono riunirsi, che vogliono semplicemente, sono famiglia anche, no? Quindi io mi chiedo com'è possibile impedire a delle persone di poter unirsi liberamente lì dove vivono. Credo che uno Stato come l'Italia non possa impedire una cosa del genere. Rimango realmente stupito da una cosa del genere. Non fa parte della tradizione di questo paese. Lo penso anch'io, tra l'altro vabbè, c'è anche l'articolo 19 della Costituzione, se vogliamo, e quindi può darsi che l'ipotesi della Lega di fare il referendum prima di costruire le moschee vada incontro anche a quella cosa lì, cioè alla cosa di incostituzionalità. Assolutamente. Qualcuno ha parlato anch'io di sparata estiva e devo dire che la Lega... 100 ne dice e non lo so quante ne fa, spesso non ne ha fatte molte, non ne ha realizzate molte di proposte, anche quando è stata al governo. Adesso la Lega è al governo in regione Lombardia, e quindi sarebbe interessante da qualche mese andare a sentire se questa proposta ha fatto strada oppure no. Dopodiché si può discutere anche di autorizzazioni, regolamenti, questioni edilizie, urbanistiche, perché non è che bisogna fare moschee punto ovunque, senza controlli, senza niente. Sicuramente ci sono delle procedure. Loro hanno fatto una proposta, vedremo. Vedremo. Grazie Gabriele. Sì. Importante. Va bene. Io, volevo aggiungere qualcosa velocemente, sì. Sì, semplicemente rispetto anche al politico palermitano, cioè ho notato che comunque i politici spesso si basano su l'emotività del momento, sulle difficoltà della gente, e spesso questo lo si fa per motivi elettorali. Questa cosa credo non sia più possibile. Anche se ho capito, Gabriele, grazie ancora. Devo dire che non capisco però sulla questione di Figuccia, come si chiamava adesso, non mi ricordo. Sì, Figuccia, il consigliere comunale di Palermo, se porta voti dire che. Che l'omosessualità è una, come ha detto lui, è una malattia e nasce nelle famiglie violente, perché non lo so quanta gente pensi questa, forse sì, forse un po' di voti porta anche questi. Lorenzo da Torino, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Chiamavo per spero la soluzione giusta della canzone che secondo me è lingua cieca. Bravo Lorenzo. Turista. Lingua cieca. Lingua slovacca, mi dicono che è cecoslovacca, lingua slovacca che si parla anche in Repubblica Ceca, quindi giusto, insomma, lingua. Lei come ha fatto a riconoscerla? L'ho conosciuta, vabbè, è un'app. Ha usato l'app. Io speravo che ci fosse qualcuno che l'aveva riconosciuta così, magari che qualche cecoslovacco di passaggio. Va bene. Shazam, e poi anche internet, su Google ho cercato, non è stato facile comunque. Adesso ci deve dire come minimo il nome dell'autore pronunciandolo correttamente. Ce l'ha? Beck. Bravo, Beck. Beck, l'altro il cognome non è Beck Fiat Pio Squad, non so esattamente. Comunque è questa, quindi lei ha dato la risposta giusta. Allora, visto che chiama a Torino, le diamo i biglietti per la mostra del FAI all'origine delle sensazioni, Villa Panza a Varese, una mostra che chi ha visitato ha detto è bellissima, in un luogo protetto al FAI, quindi una cosa, un itinerario diverso per una volta tanto. Torino Varese non è lontanissimo, quant'è? Una cinquantina di chilometri. Vai, a posto. Grazie Lorenzo e complimenti. Grazie, buona serata, complimenti a voi. Con l'aiutino, però, con l'aiutino, perché con l'app è facile, però. È troppo difficile. Difficile. Era andato più vicino, allora, senza app, quello di prima, che parlava del polacco, però non ha vinto. Allora, abbiamo ancora qualche minuto. Gianfranco da Varese, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Devo intervenire a proposito di TripAdvisor. Sì. E infatti la persona che ha telefonato prima ha dato un po' l'esempio, nel senso che lui ha utilizzato la tecnologia, insomma, per cercare di vincere. E la stessa cosa è TripAdvisor, bisogna vedere come lo si usa. Purtroppo io lavoro nel settore, naturalmente solo nel settore professionale, vendo migliaia di camere di hotel tutti i giorni. TripAdvisor ha sempre funzionato molto bene. Sì. Quando è arrivato in Europa, sbarcato in Europa, purtroppo si è scontrato con la nostra mentalità, anche non solo quella italiana, magari anche quella un po' più latina, dove la gente dà delle opinioni che non sono obiettive, fondamentalmente, non ha dei termini di paragone magari seri, solo perché magari ha comprato qualcosa che non si aspettava che fosse quello, o che magari non gli è simpatico quello della reception. Poi non mi è piaciuto perché c'era vento, che c'entra il vento? Esatto. No, guardi, lei non sa, questo periodo qua d'estate abbiamo ricevuto veramente alcune lamentele che erano di un'assurdità. Oggi stesso un cliente ci ha contestato, un cliente che poi è un'agenzia, quindi il cliente finale ha contestato l'agenzia, mandandoci delle foto di un piano diverso dell'hotel, di una camera diversa dell'hotel, perché c'era la signora che stava rifacendo le camere, quindi lui è entrato dentro, ha fatto queste foto dicendo che era la sua camera. Cioè bisogna vedere come si utilizzano. Però mi tolga un'ultima curiosità, perché lei lavora nel settore e potrebbe quindi, diciamo, avere un conflitto di interessi. Che cosa si occupa esattamente lei? Noi noi abbiamo un comparatore web, un comparatore solo professionale B2B per il turismo, per gli hotel, nel senso che noi abbiamo preso i più grossi fornitori di hotel del mondo, li compariamo, cioè te li mettiamo davanti tipo Trivago, però è solo professionale, e vendiamo le agenzie, quindi non vendiamo ai clienti finali, quindi le agenzie comprano da noi le camere che poi vengono rivendute, quindi con dei prezzi naturalmente concorrenziali e con un servizio naturalmente professionale. Va bene. Però adesso è un po', mi perdono il paragone, è un po' come il discorso della vendita delle armi negli Stati Uniti, no? Loro si difendono sempre dicendo noi sì creiamo la pistola, poi dipende da uno come la usa. Mm-hmm. Quindi il TripAdvisor assolutamente è la stessa cosa, bisogna vedere poi come tu lo usi. Gli americani l'hanno usato benissimo. Beh, loro adesso mi sembra che quello. Sì, che per lo più sia usata positivamente. Ci sono alcuni albergatori che si lamentano, però il paragone con la pistola non lo so, no, non lo farei. Comunque, grazie, no, esatto, grazie. Chiudiamo con un altro ascoltatore, Remo da Milano, buonasera. Ah, buonasera a te, salve. No, mi posso riallacciare tranquillamente a ciò che diceva l'utente sì. poco fa. Io sono stato, perché grazie a Dio devo dire, ho ceduto l'attività qualche mese fa, sono stato un ristoratore qui a Milano che ha usato TripAdvisor in maniera, devo dire, per me è stato eccezionale. Peccato che poi, ecco, faceva riferimento all'uso che se ne fa in Italia, non è usato come si deve da chi poi frequenta i locali. Il mio ristorante, nel momento in cui è iniziato a funzionare, ha scoperto casualmente di TripAdvisor, perché sono stati dei clienti che arrivando ti dicono dobbiamo interromperla qua, mi dispiace Remo, perché abbiamo esaurito il tempo, è tutto anche per questa sera, ci sentiamo domani 18:20 e 30, ciao, buona serata a tutti, a domani, ciao ciao.